all'ascolto, gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cari amici, siamo qui in questa struttura mastodontica del Parlamento europeo. Ma come cazzo funziona stasera? Ma lascia, anche questa non funziona. Non funziona nemmeno questo, Parlamento, non funziona io niente. Io non mi dite niente, guardate, persino voi mi siete simpatici questa sera perché ho la sindrome dell'emigrante. Vedo i comunisti in giro e dico, cari, come siete carini, un bascio, un bascio. Oddio, come mi manca. Perché è così bassa questa sedia, lasciala di Strasburgo? Così, lasciala così. Ma non ho capito. È tutto rotto. Ma è molto bella lei dal vivo. Fuori però. Dall'Italia sono tutti simpatici, pure i comunisti. Ma certo, io quando vedo un volto amico, anche sì. Persino voi, persino te. Che ti, anche lui. Ma confatti, io perché ma sai che sta bene? Lei la ricordavo più anzianotta. Ma va. Scusami, tanto che dunque, sì, tutto bene. Che sono succede? Molto sciupata perché ho passato già due giorni qui. Sei già la terra migliore, diciamo la verità. Si può dire? Sì. Due giorni qui sono molto già. Molto difficile perché. Sai perché? Non c'è perché? Anima. Come? Ah, come non, c'è, non c'è la battaglia, non c'è battaglia. Ma non c'è la battaglia, sono tutti questi qui. Io volevo intervenire contro Schulz e dire Schulz è da rottamare. Sì. Rottamati da solo, perché oggi abbiamo fatto una votazione, non riusciva, manco lui ha dato i numeri. Ma c'era l'accordo? Sbagliati. Dovete votarlo! Io ho votato scheda bianca. Ma che gliene frega? Ha fatto saltare già l'accordo di Berlusconi. Un minimo. Come un minimo? Se no che viene ma scusatemi, Schulz ha dato del capo a Berlusconi il primo atto che fa. Sì, vabbè, uguale. Ma non è uguale! È tale quale! Il primo atto che faccio è votare per Schulz. No, mai. Ma che scherzate. Ma quando vede Schulz, lei a che pensa? È una tragedia, perché già qui vedere Schulz ti incupisce. Io lo vedo in cioè, loro non lo sanno in Italia, diciamolo. Guardate che qui Schulz è come uno stalker, sta in tutte le televisioni, come sta in tutte le cose. È pazzesco, ti massacra. È servito e riverito. È servito e riverito. C'è uno stuolo di persone che lo accompagnano. Tutti con Schulz, si sente parlare solo tedesco in questo Parlamento. Ma come? Le altre nazionalità non ci sono? Il primo giorno già ha voglia di andare via, diciamo, già ha voglia di andare via. Oddio, in mi manca il Senato, mi manca persino il presidente Grasso. È grosso. Ma vuole mettere no, qui. Sono molto contenta, nel però cuore, un po' dura. Nel cuore dell'Europa, bellissimo, con tutti i popoli che si ma incontrano. Ma Schulz, se non è un capo, che cos'è? Ma è un bell'uomo poi tra l'altro. Oddio, Schulz. No, Schulz, non è Schulz è una cosa terribile, ma lo conoscono tutti gli italiani come Schulz. Ma Schulz è una persona che non ha pure lui anima, lui è così, va avanti per gli interessi della Germania, tant'è che quando noi abbiamo fatto la riunione del gruppo popolare europeo, tutti parlavano con Schulz. Lo dice con un po' di magone, questa popolari europei. Ti rendi conto? Ma le fa schifo, dai. A me piaceva stare dentro Forza Italia, infatti Tajani ha detto, guarda che tu sei prima PPE e poi Forza Italia. Ho detto, no, io sono, e ho detto, io sono prima Berlusconi, poi Forza Italia, poi forse PP. Ma perché togliamo lei? Ma come? Perché c'è qualcuno. Sì, PP è pure come gli spagnoli, quelli. Ma c'è qualcuno io che non la posso vuole, vedere, l'onorevole Mussolini seduta così bassa. C'è qualcuno che non la vuole, perché? Ma scusate, di questo no. Ma lascia. Perché? No, perché gli ascoltatori devono sapere. Basta che si sente la voce, che te ne importa? Ma io non ho capito, ma perché qualcuno non la vuole? Per il suo cognome? Ancora questa storia di Mussolini, il cognome Mussolini. Perché qua c'è gente che vive nel passato. Perché questi non sanno che fare. Beh, per farsi fa pubblicità però, Ma come fa effetto? Qui fa effetto, qui Strasburgo nasce proprio alla fine della seconda guerra mondiale per mettere pace tra Francia e Germania, far sentire il nome Mussolini. Ma dato che mi hanno eletto 82.000 persone in Italia, 82.000 attanto, io stavo qui tranquilla, ero entrata anche un po' di entusiasmo, un pochino. Allora la Comi dice, ah, lei vota qui per il gruppo, però dice, mettiti un pochino defilata. Ho detto come la, che vuol dire defilata? Perché? Ho detto, perché? Che succede? Questo è il primo giorno, no? Sì. Dice, no, perché c'è qualcuno che ti vuole contestare. A chi? Dico, a me. Ma come, con tanti problemi che ci sono al Parlamento Europeo? E chi è? Dice, questo qua? Dice, sì. Chi, no, sono? Oh, chi? Finlandesi, svedesi, olandesi. Ah, pensassero. Perché sentono il nome Mussolini e si invitano. Cioè, ma pensassero certo, ai mulini a vento. Allora, io ho detto, non ti preoccupare, non solo, non mi nascondo, vengo. E sono andata con la mossa, che purtroppo non mi posso, così. Così, come faceva, come faceva il nonno? Il nonno, questa è zia. Sì. Anzi, oddio, si scusi. Mi dispiace, nell'oro di Napoli sono andate così, così come per posa, dire avanti, avanti. E ora? E non hanno fatto niente, poteva come si dice... Hanno fatto pippa. Poteva mettersi pure in camicia nera, dato che ci stava. Bellissimo. No, camicia nera, io sono... Bellissimo. No, ma è sono vestita così. Sì, ma guarda come sono caruccetta di beige. Devo dire che è in grande forma, dei piedi bellissimi, devo dire la verità. Infatti mi voglio mettere, qui meritano i jeans. Come no. State? Ah, no, meglio noi, qui al Parlamento Europeo. Jeans, siamo in donna. Non ci si deve mettere il vestitino. Noi siamo in donna ultimamente. Viste le grandi aperture che avete fatto esatto. Voi in Forza Italia sui io gay, noi ci mettiamo in donna. Da sempre. E mi meraviglio di voi. Di Dorè, di Brunetta e... Ma una volta ha detto, onorevole Mussolini, una volta ha detto a Luxuria, meglio fascisti che feroci. Adesso no, perché lui mi ha attaccato, lei, quello no, che non lei con è una signora. Con una scarpa a 45 ha cominciato... Sì, ma c'è una fetta così ma di pausa e no perché vuole fare tutto la cosa tranne che da donna dice non è una signora si dice c'è una scarpa 40 e va bene okay, continua a fare vabbè, gesto comunque, la scarpa comunque quello no? Che voglio ma voi dovete mettere una telecamera lo so oh, comunque con dice, una scarpa 45 ha cominciato a dirmeli tutti sì. I colori e me sono uscita così e Vespa da lì ha perso tutti i capelli però ma a parte che la storia di Vespa questa famosa storia di Vespa figlio di è un po' simile ma secondo lei qui, è vera la cosa è qui è dal naso quindi siete parenti in qualche modo. Piega naso labiale, secondo me è un figlio sfuggito. Un figlio sfuggito. Però dato che io ho fatto la legge sui figli naturali, l'abbiamo messo in regola pure a lui. Quindi mi dovrebbe invitare più spesso. Ha sempre detto di no su questa cosa qua, però... Di che? Ma sì, ma ti credo per forza, dai. Che deve dire, democristiano. No, ma lei ha fatto delle ricerche, sì, un po' di ricerche l'ha fatta. Ma non faccio ricerche, basta il DNA, si vede in faccia. Si vede in faccia, si vede in faccia. Però tra voi due... C'è stata passione, cioè nel senso dal punto di vista... No, come cioè... passione? Ma quando no, passione, nel senso la apprezza, la invita, per cui qualcosa... Mi no. Inviticchia. Ah, la inviticchia, non tanto, che tutta non questa passione. Comunque, la questione è molto semplice. Siete diventati un partito gay friendly, questa è la realtà. Lei è contenta? Ma da sempre siamo stati gay friendly. Non è vero, ma no. Guarda Alfano, Giovanardi Alfano, avete avuto... che cos'è? Non è né gay né Gasparri friendly. Avete Gasparri? E adesso che cos'è? Gasparri si oppone, Gasparri, si oppone al matrimonio. Gasparri si è sempre opposto, che c'entra. Gasparri si oppone anche al matrimonio tra eterosessuali. Ma come al matrimonio tra eterosessuali? Che ne so, va oltre. Anche ne so. È sposato. Che ne c'entra? Non è mica contro, anzi è a favore del matrimonio tra uomo e donna. Ma io credo una cosa, diciamoci la verità. Uno deve pensare anche alle coppie conviventi, anche certo, questo, brava. Però se voi mi dite, io vi dico quello le che adozioni, penso. Sì, bravo, le adozioni. Lei su questa è fuori. No, anche se so che poi vanno all'estero, vengono qua, in come Belgio. Come un senatore c'è stato, sì. Un senatore, lo giudice, sì. Lo giudice? Sì, sì, lo giudice, un senatore del PD. È andato col suo compagno che hanno fatto la cosa surrogata, là, quello che è, l'utero in affitto. Beh, che voglio certo. Dire, no, come cioè, fosse... Con i viaggi della speranza. Decidi, no... Perché tu metti al mondo una persona e quindi questa persona nasce con tutta una cosa artificiale. Cioè, ma lei, un bambino che cresce in mezzo a due uomini o due donne, non ce lo vede proprio? Non ce lo vede, diciamo. Ma, io sì, io sono andato al gay village l'altro giorno. Ma da gay village che c'entra? No, a dire, amici che... miei gay, io sono a favore del matrimonio no, e dell'adozione. Baciatevi in mezzo alle persone. Ma io no, perché te lo spiego. Perché io vedo i bambini quando nascono, hanno bisogno del papà e della mamma. Poi tutto si può fare. Ma se c'è amore diverso, puoi vivere anche no. Con... Vabbè, io sono... mondo. Però comunque la svolta l'ha data la Pascale, diciamo la verità. Non è servita né quello che diceva lo lei vedete prima. Che le donne sono fondamentali. La linea l'ha data la Pascale. La linea non è la Pascale. Bene. È contenta del fatto che la linea dalla Pascale? Ma lei? Certo, io ho conosciuto Dudù e Dudina. Sì, quello è una storia lunga. No, è una storia lunga, importante. Ma è vero che la nuova, diciamo, la nuova papessa di Forza Italia, la nuova regina di Forza Italia, cioè è quella che dà la linea. Che ha potere di vita e di morte. Che dà la linea. Che delle, perché le donne no, non possono parlare. Sì. Dice quello che pensa e se ha dato la linea in questo momento di dire apertura ha fatto cioè bene. È molto influente, molto ascoltata. Beh, dal molto cavaliere. Molto influente, è la fidanzata del presidente. Comunque diciamo la fiancée del presidente. La fiancée del presidente. A proposito, no, ha visto il signor Sarkozy è passato dalle risatine Quasi al gabbio oggi, lei non lo sa perché non si è interessata alle cose francesi. Ma che meraviglia. No, l'hanno fermato sì, per una storia. Chissà la moglie come sta? L'hanno fermato per una storia di pare che abbia fatto delle telefonate a un magistrato per sapere un po'. Lo vedi? Bisognava intervenire oggi al Parlamento qui. Ma lei non si è fatta informare bene. Ma non puoi parlare qui dentro. Ah, è vero, non puoi parlare, sì, è vedi? Vero, sì, e beh, certo, non è come. Vedete che democrazia, voi questo ma non è come in Italia che uno si alza e tira fuori la spigola. No, devi fare così. Peccato che non si vede. Devi battere le mani, sì. Devi battere le mani. Ma sì, ho delle perché regole siamo precise. 751. Ma lei c'è già stata, si è scordata tutto. Non ce la posso fare perché ho bisogno di cuore, di animi. Io devo parlare show di non Schultz. Se le possono fare qua, show. Non se ne possono fare. Ma non è show, no. È parlare. Non è che può andare da Schultz e dirgli, Schultz. Gliel'ho detto, urlato, dimettiti, rottama. Ah, così, primo giorno. Sì, certo. Ma come dimettiti? E fate che qui non sente nessuno quando. Purtroppo il problema è questo. Uno dice dimettiti, eccetera. Quello passa con lo stuolo di persone e se ne fotte. È vero. E poi troppo tedesco. Ma scusi un attimo, lei quanto vuole stare qua di giorni? Cioè martedì, mercoledì e poi andare via subito, scappare? Allora, il lunedì arrivo e poi c'è il martedì che lo devo fare pieno. Il mercoledì pensavo di farlo a metà, lo devo fare pieno, deve cambiare ieri. Se non si viene i soldi. E poi giovedì me ne vado. Ma non vedo l'ora, appena mette piede qui già non vedrò di tornare a casa. È un po' ansiogeno. Devo essere sincera. Ma perché? Ma lo sai perché? Perché? Perché qui è tutta la burocrazia, qua ci sono 4.000 funzioni. Mo se mi sento. Ma tanto. Ma come se siamo in diretta? Allora, zitto, bene. Allora, 4.000 funzionari e poi ci siamo noi che siamo ospiti. Non ti fanno fare niente per rimborsare una cosa. Non ti dico, fammi vedere questo. Cioè, ci considerano già dei truffatori. Allora io dico, è un vizio, è una cosa pregiudizievole. Ma per perché il deputato. Ci sono delle procedure giuste di controllo. No, perché noi dobbiamo dare da vivere. No, perché noi dobbiamo dare da vivere a questi 4.000 funzionari che ci fanno una testa così. E diciamoglielo così, la ameranno per tutti questi 5 anni. Tagliamoli, licenziamone un po'. Bravo. Troppo. E poi scusa un'altra cosa. È possibile che c'è. Povero tecnico là. Chi è? Il tecnico, subito licenziato. Così il tecnico sarà tedesco, non capisco. No, basta, pure lui francese. Via, allora, a casa. Via, italiano. Finito. Italiano. Via. Allora, volevo dire un'altra cosa. È mai possibile che noi dobbiamo avere la duplicazione della sede di Strasburgo e Bruxelles? Non c'è un volo diretto. Faccia subito una battaglia. Siamo ma subito già la una facciamo, battaglia. Già ne abbiamo parlato oggi subito. Al gruppo, alla riunione di Forza Italia. E PPE, posso ricordarglielo, lei fermi tutti, abbiamo il traffico dell'Italia, italiano. Oddio, che bello, mi piace pure il traffico. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto. Ragazzi, vogliamo far ascoltare qualche cosa del giorno che ci eravamo persi, però, perché qui c'è stato lo show del signor Bonanno, caro onorevole Mussolini, si è messo un burka. Bonanno! Parenzo, che cosa hai da dire su questa cosa? Chissà che cosa penseranno i deputati delle altre nazioni quando vedono questo circo Barnum che si trasferisce qui. Dai, perché? Qual è il problema di Bonanno? Perché qui non sono abituati, qui hanno altre regole, sono. Anzi, io tra un po' ti lascio e vado a beccare Beppe Grillo. Ecco, appunto, a proposito. Tra qualche minuto io me ne vado e voglio alle 7. Buon anno oggi Parlamento Europeo Strasburgo, sentite cosa ha fatto. Come mai è così coperto dal burka? Perché l'Europa rifiuta le radici cristiane, invece io penso che sia giusto avere le radici cristiane, sono contro un certo tipo di Islam e quindi io vengo qua perché ritengo questo, che il burka sia un sinonimo di come questa Europa sta andando con l'Islam. Io invece non voglio morire islamico. Che le più volte non lo vedi mai. Allora, Giovanni Toti, che è parlamentare europeo, il consigliere politico di Berlusconi, ha detto: vabbè, ma Berlusconi faceva le battute sui gay, ma è come quando si fanno le battute sui carabinieri, perché Berlusconi ha detto una volta: meglio che mi accusino di essere andato con le donne che essere frocio. No, frocio non l'ha detto, no, che essere gay, anche se frocio si può dire, sono stato autorizzato a dirlo, perché loro si chiamano frocio tra di loro, ma cioè quelli che sono omosessuali. Ma quando mai se la Cassazione ha detto che non si può più no, dire? No, frocio si può dire. Beh, dipende in che modo. Io non infatti lo dice. Pensavo che ci fosse una sentenza retroattiva. Ma lei lo può dire? Quello che ho detto. Beh, però. No, frocio non si può più dire. Ma no, lei lo dica. Io li chiamo frocio. No, voglio chiamare lo frocio. Dici tu. Io dico. No, ha già perso una causa. Ecco, sentiamo il suo capo, Giovanni Toti, il suo capo. E sentiamo. È il suo capo. È tutta la vita, è tutto il mondo che si fanno le barzellette sui carabinieri non vuol dire che uno non abbia rispetto per l'arma dei carabinieri, su, voglio dire, stiamo parlando dell'Italia, nel senso che non è che uno che scherza sulla macchina dei carabinieri poi alla fine ha dispregio, anzi, non è che una storia sui gay possa essere il metro con cui si giudica il reale pensiero di una persona. Dopodiché io francamente, che vivo spesso col presidente Berlusconi, non ho mai sentito di queste battute, quindi non me le ricordo. Vabbè, comunque, noi Mussolini, voi siete passati d'un tratto dalla Chiesa, da Ruini prima, poi successivamente Bertone, legame strettissimo con la Chiesa Cattolica, al gay friendly, addirittura al gay pride, alle unioni gay, ai matrimoni, qualcuno parla di adozioni, c'è stato un cambiamento. Ma meglio così perché ce le vorrebbe i matrimoni, il matrimonio sarebbe d'accordo col matrimonio. Vabbè, chiamiamolo in un altro quando modo. Si sposano capiscono il dramma, quindi poi non si vorranno più sposare. Io non dico niente, non dico niente perché non sono niente. Autorizzato a dire battute su, a fare battute mi su alza di e me lei. Ne vado. No, appunto, no, non sono autorizzato, però me l'aveva lanciata così. Ma no, sto dicendo il matrimonio, io non credo che loro vogliano il matrimonio col velo. Ma è la tomba dell'amore il matrimonio. Sì. Può essere. No, vabbè. Può essere la tomba dell'amore. Siamo due separati. Vabbè, adesso questo matrimonio è la tomba. Il matrimonio si deve vivere ogni giorno, non è che tu ti sposi e fatta. Sì, però parliamoci di matrimonio. Dopo un po'. Si deve vivere e costruire ogni giorno. Io non credo che gli omosessuali vogliano sposarsi in chiesa col velo. No, in chiesa col velo. Allora, vabbè. Che ne so, il velo, il velino. Ma non è vero che il matrimonio civile, mica chiesa. Io penso che loro vogliano Papa Francesco che sposa con due omosessuali. Però gli devi. Ma quello c'è Rivella, quello lo farà. Ma no, quello è Santo Padre. Il Santo Padre lo farà. No, non è quello Mussolini. Idu lo farà. Comunque, guardi, che veramente io ci credo a quella cosa che ha detto prima: che il matrimonio può essere la tomba dell'amore. Può essere, non sempre. Bisogna coltivarlo ogni giorno. Coltivarlo e andare avanti. Via. No, è vero, avanti. Ha ragione. Su questa ragione. Senta, però, c'è una questione. La Pascale, perché non si candida? Oddio. C'è stata la cosa di candidare al presidente della Campania. Bellissimo. Potrebbe essere. Io ho fatto un passaggio positivo. Perché lei il quid ce l'ha. Lei qui a differenza dell'altro signore, lei dice potrebbe essere di alfango, lui ha pugnalato in un momento di debolezza. Non era più d'accordo Mussolini, ci l'altro sta l'altro l'alticcio Fini, uno prima era alto, adesso è alticcio, cioè, perché ubriaco. Lui pensa di ritornare in politica con noi ed è andato malissimo. Ma fare il coach. Ma che vuole? L'ha visto lo spot col pallone? Ma no? Lui, per carità, lui può fare giardinaggio, lui può scrivere un libro, può fare qualcosa, le passeggiatine. Basta, come le passeggiatine? Basta. Cioè, non ha più nulla da dire. Signora Tulliani. Chi fa un'infamata una volta la rifà due volte. Quindi ha già dato. Se lui entra di nuovo con noi, l'elettorato nostro, quello che è rimasto, prende e se ne va e io dietro. Vabbè, ma comunque non c'è possibilità. Nessuno se lo fila o no? Qualcuno se l'è filato? Fini non lo filano. Fini. Beh, no, però c'erano mille persone lì all'era. Ma quando mai io. Che. Non ma è vero mille. Perché sei. Vedi che devi c'erano dire mille la parola. Persone. Pagate. Non è come vero. Pagate? Tutti finti pupazzoni come Fantozzi. Non è vero perché lui addirittura alla fine non ha neanche più parlato. Erano pochissimi. Cioè, erano tutti pagati, dei figuranti. Ma certo, dei figuranti. Vabbè, però è come sparare sulla Croce Rossa, diciamo la verità. In ma questo infatti momento. Mi meraviglio di lui. Proprio ha perso la testa perché dopo quello che ha fatto, stati tranquillo. Cioè, allora, io fai altro. Ancora la Pascale, ma veramente non potrebbe. Potrebbe fare il presidente della Campania, si è detto. Ma certo, ma perché no? Appunto. Lo fa Caldoro. Si rivede un po'. Beh, lo fa Caldoro. Sì. Si rivede un po' nella. No, Pascale Musso, no, per carità. La storia sono diverse. Di sorella la Pascale, minore, la no? La Pascale, che ha fatto anche la consigliera provinciale, quindi certo. Vive la politica dalla mattina alla sera perché sta col presidente. Ha tutto il diritto di. Ma certo, perché no? Di avere un ruolo politico. Scusatemi, la moglie di Fassino non era Serafini. Non beh, era. Però faceva politica da prima. Pure sposarsi anche con Fassino. Quanto siete di parte? Anche la lui Pascale. È di parte. Tu sei di parte. Lui è di parte. Io no, dico di sì. Io lui dico lo sai che ha detto che quelli che passano da SEL al PD sono intellettuali. Invece, no, sono non è intellettuali. Invece quelli che passano. Non hanno cambiato schieramento. Da Forza Italia all'NCD sono. Beh, no, quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia. Però quelli che sono, a differenza di Scilipoti, questi sono rimasti sempre nell'ambito di Cialdini. Rivoglio l'Italia. Rivoglio l'Italia. Oddio, quanto soffro. Rivoglio l'Italia. Sì. Anche il clima. Ma ha preso fa casa? Freddo. No, come fa freddo? A Bruxelles. Io vado in albergo poco. A Bruxelles ha preso no, casa. No, perché tutti neanche. Prendono casa. Tutti perché? Prendono casa a Bruxelles. Io no, mai. Perché lei prima o poi la prima occasione scappo, si torna anche in Italia. Fa freddo qui. Ma no, fa freddo, ma c'è un caldo pazzesco, sono 30 gradi. Ma non è vero, scendi, esce e fa freddo. Ma perché lei è, come dire, meridionale nell'animo, esce, e quindi se fa freddo, è pieno di nuvole, non ce la puoi fare con tutti questi tedeschi. Ma il primo giorno si fa, ma che c'entra i tedeschi? Sfoltitemi tedeschi. Stasera si fa una bella birra ghiacciata, due würstel lì con dei crauti, la scioccrutta, presente questo piatto. Ma mangiatela tu la scioccrutta. Sapete che cos'è la scioccrutta? Sì, come no? Queste salsiccione gonfiate al vapore, terribile, che tu te le mangi e diventano tre volte nello stomaco. Se la mangiasse Schulz la scioccrutta, tutta intera ingoiata. Lei lo vorrebbe morto, su Schulz. Diciamo, no, Schulz no, non è nuovo. Ma come, tutti volevano un Parlamento nuovo, rivediamo Schulz. Posso ricordarle volta che c'è un accordo di cui non interessa niente a nessuno. Fotte, forza per votare Juncker alla Commissione, sì, i socialisti votano Juncker. Solidarietà voi... per Cameron. Ma la gente normale, sai, Juncker, Schulz. Ma ve l'ho ricordato io. Vedi, tu ricordi, sì, e già sei entrato nella mentalità europea. Sì, invece sì, gli italiani, gli elettori, dico come noi mandiamo loro in Europa il primo atto è votare Schulz. Non è possibile. Senta una cosa, qualcuno fa l'accostamento tra gay e pedofilia. Cioè dice, molti pedofili sono gay. Questo non c'entra niente. Allora parliamo pure della chiesa, dei preti, che vuol dire tutto. Beh, anche lì, no. No, ma questo non c'entra. No, distinguiamo, bravo. Questo distinguiamo, non c'entra niente. Posso chiedere che cosa? Questo tatuaggio, questo sono fatti miei. È una lettera ebraica quella, la Gimmel. Gimmel. Che ne sai? Ma quando sei, perché lui è ebreo. Io sono ebreo. Ah, vabbè, ti è, allora leggi. Per Gimmel. E il 3. Sì, nel valore cabalistico, sono i certo, miei tre figli, al numero 3, Caterina, Clarissa e Romano. Ma adesso se l'è e quando se l'è tatuata? Se me lo sono tatuata a ottobre. Quindi Alessandro Musei si è tatuato una lettera ebraica, cioè la Gimmel. Sì, la vedi tu, però sono solo lui. Sì, solo io, perché sono anche intelligente. Ah, beh, sì, comunque sì. Ma mica adesso sta qua a fare il cinema con me, ma è una persona è tatuata bene. Non è che sono ma è tatuata un bene o no? Tatuata molto bene, perché è difficile da fare la Gimmel. Bravo. Ma come mai ha scelto questo simbolo qua? Lettera ebraica, no, perché ogni lettera ebraica corrisponde a un numero. Perché il 3 in italiano era orribile, fammi ricordare, sembra... ottobre, no, è ancora no, è un periodo lontano, ottobre. Sì, no, c'era casino. No, ottobre va bene. Va bene, il 3, i miei tre figli. I suoi tre figli. Ma che mi metto il 3 se lo fai in italiano, il numero italiano 3 è orrendo, cioè, sembra un sedere. Sembra un sedere. Sembra un sedere. Ma scusi, il 3 mi dà un 3 un coso sul braccio. Domani viene Renzi comunque, domani c'è Renzi. Andiamo a sentirlo domani, il nostro presidente del Consiglio, mi raccomando, orgoglio italiano. I consensi aumentano, i consensi aumentano. Ma scusate, già i tedeschi l'hanno fatto nero a Renzi, perché dice che quello lui dice sulla flessibilità non esiste. Tutto, non esiste. Schäuble ha detto non abbiamo parlato per niente. Schäuble, dimmelo. Schäuble. Madonna mia, come si fa? Come si fa? Persino Renzi mi piace. È cioè, non le, tutta sta babeli di lingue. È gravissimo. Io domani se vedo Renzi me lo bacio. No, è vero. Sì. Me lo bacio e me l'abbraccio. Beh, è più bello di Sarkozy. Sarkozy è passato da me. Sarkozy in galera e Renzi Caruccio Veloce viene qua e me lo devo abbracciare. Chissà la moglie come sta. Sarkozy è passato dalle risatine di Berlusconi. Però mi manca un passaggio sulla Merkel, che è molto dimagrita, sciupatella. Come l'avete sciupatella? Vista? No. E gli stanno larghe le giacche. E come mai? E che ne so, chiedetela a lei. Quella è l'ombra di se stessa. Perché? Ma che ne so, ci avrà avuto qualche guaio. Ci fa passare a noi guai. Grazie Alessandra Mussolini. Ciao cari, viva l'Italia! La Zanzara. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Mentre Parenzo è andato alla ricerca di Grillo, mettetemelo in onda, voglio sapere dov'è. Davide, dove sei? Dove sei, Davide? Sono qui, dentro il Parlamento Europeo, sto aspettando che il signor Beppe esca dalla sala che... Sì, però... Figurati, è una sala che è intitolata al grande Alexander Langer, che tu non sai neanche ma io me ne sbatto di queste tue cose intellettuali, di queste tue cose... No, ma Alex Langer è un grande personaggio del mondo politico. Vabbè, d'accordo, europeo. Ma lasciamo perdere. Adesso, quando esce Grillo? Ok, alle 7:30 tu devi tornare. Alle 7:30 devi tornare alla base. Io adesso voglio incontrare Beppe e voglio chiedergli soltanto perché non viene mai alla Zanzara. Solo questo, io sto qua fino a quando non esce il signor Beppe, io non mi allontano ci sono altri ospiti. Ti do tempo fino alle 7:30. È uscito uno dei 5 Stelle, che non so chi sia, mi ha guardato inorridito. ed è andato via. Pure qui siete venuti a rompere i coglioni. Ma scusa, ma io poi vorrei fare una domanda a Grillo. Ma perché è venuto? Perché è venuto fisicamente qui? Scusi Grillo, perché è venuto fisicamente qui? Come mi risponde Grillo a questa domanda? Ma io, perché era rotto l'iPad. Volevo fare un collegamento in streaming in iPad, era rotto, ho dovuto prendere l'aereo, inquinare. Questo è un posto morto, di zombie. Ma scusi, ma lei è venuto con l'aereo, ha viaggiato, perché ha sprecato. Era rotto l'iPad, non c'era la mail, era rotto l'iPad, l'iPhone, l'hard disk. Porca puttana, sono venuto qui per mandare a fare il culo Schulz, è evidente, no? Ma è evidente. No, ho capito, però lei ha detto che non è importante ormai, ha detto che tutto si può fare tramite computer, che no, perché è venuto fisicamente il computer, in cui... Perché era rotto il computer, era rotto. Ma le stampanti 3D? Le stampanti 3D? Ma voi non capite, lì alla Confindustria non capite niente, nulla, perché siete gente morta. Scusi, perché non del finanziamento pubblico. Vabbè. TG3, titoli, poi tornarsi, no, fermo, che titolo del TG3? Pellegrin di Radio Padania mi sta cominciando a rompere i coglioni, il signor Pellegrin, per carità, è un bravo uomo, un bravo ragazzo, un volenteroso, diciamo, se la cava, diciamo, sì, diciamo, se la cavicchia, è uno anche che baldanzò, a me piacciono gli irregolari, piacciono gli eretici, diciamo che potrebbe essere annoverato tra gli eretici, un po' monotono, sempre le stesse cose, gli immigrati, le cose. Comunque, vabbè. Fa un nuovo appello, dice, mi invita a dire quanto guadagno. Ma amico mio, è arcinoto, ma poi, ma che ti frega a te quanto guadagno io? Cioè, ma qual è il problema, Pellegrin? Cambia registro, su, amico mio, dai. A me sembra che ti stia dando molto fastidio che io ti abbia chiesto quanti soldi prendo. E non fare il furbo, hai a che fare col bambino scemo tutti i giorni, ma non sono tutti scemi. Diccelo quanti soldi prendi. Non me ne frega un cazzo di sapere quanti soldi prendi tu. Mi interessa sapere quanto ti dà Radio 24, perché sono soldi miei, perché il tuo padrone ciuccia dalla mammella del popolo 20 miliardi l'anno. E ti cullerà. Allora, senti Pellegrin, eccolo, i soldi che io prendo qui a Radio Padania, guarda con che faccia tosta, cioè i soldi che io prendo qui a Radio 24 non sono soldi. Sta per uscire. Sono soldi. Sì, non me ne frega niente, sono soldi di appena hai Grillo lì, oppure appena vuoi fare qualche show insieme a Grillo, insieme ai Grillini, ti fai sentire, urli, urli e ti fai sentire. Signor Pellegrin, i soldi, al limite, quelli che noi diamo, cioè quelli che noi diamo alla Lega, quelli che noi diamo sempre di meno alla Lega, servono a pagare il tuo stipendio, qui non c'è niente. Qui non c'è niente di pubblico, non c'è un euro pubblico. Quello di cui parli sono altre cose, le agevolazioni, la stampa. Poi stai parlando di una cosa che riguarda le imprese, non c'entra niente con Confindustria. Cerca di studiare un minimo, dico solo un po', solo un po'. Poi parli tu di soldi pubblici, ve ne siete fottuti i soldi pubblici. Vogliamo ricordare tutte le vicende del passato, le vogliamo ricordare. Li avete fregati i soldi pubblici, ve li siete intortati, imbertati, come si dice. Pellegrin. Che ci ha reso schiavi. Cruciani, non puoi dirmi che non lo sai. Perché se mi dici che non sai quant'è il tuo contratto con Radio 24, i casi sono due. O sei un tonto o sei un bugiardo. Senza dubbi né ripensamenti. Ancora. A proposito, faccio fatica, non riesco a trovare un parrucchiere che venga a strapparti i bubi piliferi anali per il test antidroga. Comunque, da come parli, forse non c'è nemmeno bisogno di fare quel test, perché si capisce cosa c'è dietro. Perché si capisce? Ma non sai niente, Pellegrin, studia, capra! Arezzo, a che punto sei? Guarda, siamo tutti qui ad aspettare il signor Vabbè, Beppe, fammi sentire Giovanni da Reggio Emilia. Viaggio inutile di Parenzo alla ricerca di... Il solito viaggio inutile, le grandi inchieste di Parenzo. Un cazzo. Giovanni da Reggio Emilia, dai. Mi sentite? Sì, dimmi caro, dimmi. Allora, io volevo dire una cosa semplice. Mi dispiace che la Mussolini è andata via, perché altrimenti gliel'avrei voluto dire di persona. Diglielo. Glielo riferiamo noi. Allora, la Mussolini, proprio oggi... Ci sono state delle sentenze per quanto riguarda quella cosa di pedofilia. Delle baby squid, sì, esattamente. Ma non c'entra in questa tornata, non c'entra il marito, eh? Non c'entra il marito. No, ho capito, però siccome c'ha questo tono arrogante la Mussolini, dovrebbe... Sono casi della vita che succedono, sono cose private, Scusi, che c'entra il tono arrogante della Mussolini con le vicissitudini giudiziarie del marito? Sta parlando di politica. Secondo lei, per i guai del marito, per i guai del marito, per i problemi che ha dal punto di vista giudiziario, forse patteggia, forse no, non so come è andata a finire la cosa, è in corso, non può parlare di politica? Non mi spieghi. No, può parlare di politica, non sto dicendo questo. Ognuno può dire la sua, siamo in un paese democratico, quindi ognuno può dire la sua. Sì. No, però dico, la Mussolini è stata sempre un carattere autoritario. Sempre... È tornata a parlare di politica, è tornata a parlare di politica. Le cose personali, finché sono solo cose personali, le lascia da parte. Poi quando emergeranno, quando ci sarà la risoluzione definitiva di questo caso che riguarda il marito, e poi vedremo come trattare questa vicenda. Ma io parlo di politica, non è che le posso fare le domande sulla questione, anche perché non vuole farsele fare. Mi pare molto evidente, no? Non c'è bisogno di scoprire, no, l'acqua calda. È evidente che se si mette a sedere qui la signora Mussolini non vuole che le vengano fatte domande sulla sua vicenda familiare, o sbaglio? Però essendo, ma glielo devo spiegare, pubblico, le devo, che devo fare? A, B, C, D, devo spiegare l'alfabeto, cosa pubblico, devo fare? Essendo un personaggio pubblico invece dovrebbe parlare. Ma, chi la, ma quando, ma scusi un attimo, uno delle sue vicende personali, che ovviamente non sono solo vicende personali ma diventano vicende pubbliche perché lei è un personaggio pubblico, decide quando e come parlarne. Finora non ne ha voluto parlare, punto e basta. Questa sera ha detto qualcosa che riguarda il matrimonio, cioè finora non ha voluto parlare nel dettaglio di queste cose, che rimangono cose per il momento private, che ovviamente investono il suo essere deputato. Ma questo, cioè, perché le devo spiegare delle cose scontate? Guarda caso, cioè, lei che cosa... non gli faranno mai niente, secondo me non lo condanneranno mai. Perché ma lei non sa niente, così... non sa come sono andati i fatti, non lo so nemmeno io se era consapevole del fatto che fossero minorenni oppure no, non lo sappiamo. Lui dice di no. Vabbè, una cosa vedremo... certa, la Mussolini è una cornuta, vabbè, questo è un dato di fatto, però... Vabbè, ma da questo punto di vista, sa, io per esempio sono uno di quelli che dice a me piace essere cornuto, per cui... a lei piace essere cornuto? Cosa, a lei piace essere cornuto? A lei piace essere cornuto? No, cioè, no. Sua moglie è sicura non che non le mette le corna, piacere. No? Cioè, sua moglie, la sua fidanzata, so. Lei si... Non me lo viene a dire, non lo Beh, so. Beh, guardi, io una piccola indagine la farei. Parenzo? Parenzo? Dimmi, caro. Che stai facendo? Sono qui con tutti i colleghi, c'è la mica ecco, bene, scendi, del scendi. 23, che se vuoi ti passo in diretta. Scendi. No, grazie, grazie Giovanni. Scendi qua. Nicola da Pisa. Io sto qua fino a quando... No, adesso scendi. Nicola da Pisa. Pronto, mi senti? Dai, dimmi caro, dimmi. Senti, io ho telefonato ieri per contraddire le cose che dice quella testa di coccodrillo di Parenzo. Cosa ha detto? Relativamente agli immigrati, cioè io capisco che... è anche quello che hai detto te relativamente alla non esistenza di un complotto, no? Io volevo dire solo due numeri, cioè in Italia ci sono più di 4 milioni di immigrati, no? 4 milioni, tanta roba. Quelli che vengono coi barconi sono una parte minimale del flusso migratorio. Dunque? Tra l'altro, no, dunque, siccome in Italia ci sono ben 221.000. Vabbè, però non cominciamo a fare i numeri, su, che cosa vuoi dire alla fine di questo ragionamento, Nicola, dai? Perché lì c'è una accentuazione di questo fenomeno, perché così si tirano fuori dei soldi, si prendono dei soldi dall'Unione Europea per finanziare cooperative, onlus e così via. Perché? È una teoria, io sono abbastanza, credo che in parte sia così, cioè l'emergenza continua, serve a qualcuno, in Italia non c'è dubbio. È sempre un'emergenza, io non voglio... No, ma io su questo sono d'accordo con lei, grazie Nicola, voglio... Paola Roma, Parenzo scendi se no mi incazzo, Paola Roma, ci sono due piani qui che deve fare... Ti incazzo. Ciao. Esatto, brava. Ciao Paola, dimmi. No, io volevo parlare a proposito del crocifisso che crepe, che diceva che il crocifisso comunque è ridicolo. Molti si sono arrabbiati, hanno mandato mail, cose alla direzione, al Sole 24 Ore, a Confindustria, a Gesù Cristo, non lo so. Hanno mandato delle mail di protesta. Io non ho detto nulla, non direi mai una cosa del genere, perché pur essendo anticlericale, ateo, eccetera, io non direi crocifisso o non crocifisso, a me non me ne frega niente. Certo, nemmeno di dargli, comunque, come dire, una lettura. paura di che cos'è il crocefisso. No, vabbè, il significato del crocefisso comunque è il, diciamo, il sacrificio che ha fatto questo povero Cristo, nel vero senso della parola, per diciamo, per eliminare, vabbè, ma il male. Che cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Spiegami. Io voglio dire che comunque fa parte del DNA dell'Italia, cioè non e si dunque può... che ripeto, i toscani sono due coglioni a parlare così? No, loro dicevano che è ridicola questa figura del crocifisso, che, per carità, nessuno deve imporre il crocifisso da nessuna parte, però addirittura toglierlo nelle scuole elementari, nelle medie, eccetera, mi sembra un'esagerazione. Non dà fastidio a nessuno alla fine, no? Per cui, ma nessuno la vuole togliere, quello lo vuole aggiungere il crocifisso, cioè quello lo vuole imporre, è diverso. La ringrazio. Fra poco Parenzo torna qui. Torna qui. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, tu, sì. Crucia, sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? La zanzara. S'approcio, embe, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio, embe, e che ce passo fa? Son libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare. Spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana. Oh, ieri era nostro ospite l'avvocato professore Carlo Taormina. Avvocato professore Carlo Taormina, che oltre a parlare della Franzoni, dicendo che insomma aspetta ancora la parcella di 770, quasi 800 mila euro dalla Franzoni, che è uscita dal carcere e agli arresti domiciliari, ma in realtà adesso può lavorare, dice, dunque può pagarmi questa parcella che nel frattempo è aumentata quasi fino a 1 milione di euro, dice l'avvocato Taormina. Oltre a parlare della Franzoni, è tornato di nuovo sulla vicenda degli omosessuali. Io sono stato al Gay Village, ospite di Vladimir Luxuri, avere discorso, lo ripeto per l'ennesima volta, di fronte al grandissimo popolo del Gay Village c'era l'effigie, l'immagine dell'avvocato Taormina lì, e la gente arrivava con le freccette, con le freccette, perché Taormina anche ieri è uscito, ha sparato contro gli omosessuali, soprattutto contro le uscite di Berlusconi, di Berlusconi, della Pascale, eccetera. Via Taormina. A lei fanno orrore, diciamo, a lei fanno ribrezzo, no, è chiaro. Fanno schifo al 90% delle persone. Ma no, non fanno schifo su un bambino cresciuto da due uomini che gli vogliono bene, professore, su, è una cosa fantastica. Non mi ci frega più, sai. No, ma è una cosa, quando due uomini abbracciano un bambino. Bellissimo, meraviglioso. Vabbè, ma non è meraviglioso, è una fonte di educazione, di raffinatezza culturale. Che carecchione, rotto un culo invertito, tutto il repertorio lo conosco a menadito, tante ne ho sentite già durante l'anticamera dei successivi matrimoni gay, che saranno sicuramente imperverseranno anche il nostro paese, come sta avvenendo in molti altri paesi. No, è la verità dei fatti, questa è soltanto una operazione. Vedi che Scalfarotto, che è una persona intelligente, dice intanto prendiamoci questo, perché poi viene il resto. Perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. La maggior parte dei pedofili sono gay, qualcuno dice anche, dice qualcuno. Io non so può darsi. Come la pensa lei, professore? Ma potrebbe darsi. Ma sai, io non ho esperienze concrete, perché, però certamente siccome la deviazione mentale è forte, è chiaro che potrebbe ruotare nella stessa orbita. Cioè, secondo lei è plausibile che la maggior parte dei pedofili siano gay? È plausibile. È probabile. Essendo una deviazione mentale, dice lei, vabbè. Comunque. Una deviazione fisico-mentale. Fisico-mentale, vabbè. Con tutto il mio rispetto per la vostra professione, qualche dubbio ce l'avrei. Tra l'altro lo sai, siamo buona compagnia. È tutta politica, naturalmente. Credo che ormai siamo arrivati alla prostituzione della politica, perché per fare una raccolta di consensi a tutti i costi, specialmente in momenti come questi, nei quali il degrado dalla parte del centrodestra è assoluto, è evidente che si cerca in qualche modo di erodere qualche spazio a sinistra. Vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, perché sei meglio te. Se ne sei tanto convinto, almeno spiegami perché. Fermi tutti, eccoci qui dopo lo show dell'avvocato Tormina. Ancora una volta dice che non voleva parlare dei gay, poi alla fine è finito a parlare di gay. Abbiamo con noi in studio Cecil Kieng. Buonasera. Io pronuncio tutti. Bene o pronuncio male, onorevole Kieng? No, bene, se no vi faccio fare la campagna di come si pronuncia. No, Kieng, è la prima volta che io la vedo dal vivo. Io la chiamo ancora ministro, poi spiegherò perché la chiamo ministro, perché per me, l'ho detto in radio tante volte, è affetto, si vede. È stata la cosa più intelligente fatta dal centro-sinistra negli ultimi 10 anni. L'hanno mandata via, poi Renzi ha voluto mandarla in Europa. Adesso io lo dico chiaramente, qualcuno dice, lo dice anche il signor Lerner oggi. Sì, Gad Lerner oggi su Repubblica scrive esattamente questo. Che alla fine Renzi ha voluto un po'... Renzi, che è il maestro del consenso popolare, ha una tendenza a eludere le questioni che dividono l'opinione pubblica. Lo testimonia il dirottamento a Strasburgo di Cecil Kieng. Lei si sente un po' dirottata? Ma no, io non mi sento dirottata, cioè nel senso... Beh, un po' sì, un po' è stata dirottata. No, ma non so se voi vi rendete conto, oggi l'Europa è il posto più, cioè, più importante. È meglio stare qua che al Parlamento di Roma, diciamo. Cioè, in questo momento in Europa... Conta di più stare qua. Sì, ma conta di più nel senso che si possono fare comunque delle cose che cambiano la storia, perché oggi il Parlamento europeo è, cioè, quello italiano, posto... come direbbero la Zanzara, quello italiano non conta più un cazzo. Adesso, no, si guarda... dire in maniera sobria, cioè, senso... sobria, molto sobria. Come la maniera nostra, ministro. No, ministro. Molte delle leggi vengono recepite dall'Europa, cioè nel senso che è qui dove si prendono le decisioni. Il 75% delle leggi. Sì, poi secondo le statistiche si può arrivare anche a 80, però diciamo che è da qui dove si prendono le decisioni più importanti. Non ha torto signor Lerner quando dice che Renzi sapeva che la sua presenza era comunque divisiva. Allora ha detto, vabbè, tanto vai in Europa, così almeno in Italia non parlano più tanto di questa signora Kieng. Ma no, io non difendo nessuno, cioè nel senso... Ma una figlia di esilio, l'hanno mandato in esilio. Dorato. No, e poi le decisioni si prendono all'interno di un partito, cioè nel senso che lei non si sente esiliata? Io no, perché so che qui si prendono delle decisioni molto importanti che poi vengono recepite. Cioè, il Parlamento italiano è solo una sorta di... No, assolutamente. C'ero anch'io fino a pochi giorni fa. Hai imparato a essere diplomatico. Ma possiamo raccontare ai nostri ascoltatori... Ha degli splendidi orecchini italiani con la bandiera dell'Italia. Sì. Facciamoli vedere questi. Non c'è la webcam. No, ma la webcam non c'è. Non c'è la webcam. È radio, l'hanno chiusa Radio Belva. No, è radio lo so, questa. Lo so che è la radio, però... Ma potete fare una selfie, cioè, no, adesso voglio fare il selfie col ministro. Posso continuare a chiamarla ministro? Ma perché? Perché così? Non si fa così. Perché? Dai. No, perché? Per affetto, lasciamoglielo dire. Vabbè, lasciamoglielo dire. No, ma non prendo in giro. Io, guardi, l'ho detto tante volte. Lei avrebbe potuto fare di più da ministro, ma già il fatto di averla lì in quel posto, secondo me, è stato un atto coraggioso. Solo perché nera, o negra, come dico io. Cioè, nera. Cioè, perché è un atto è italiana, ed è stato un atto di modernità straordinario. Lo dico senza dire, guardi. Ma è che ci sono tante cose, cioè nel senso che lui adesso l'ha detto così, però non è semplicemente il fatto di essere nera, cioè il fatto di racchiudere dentro una figura tanti punti che, se presa una, viene vista magari non serve a niente. Invece bisogna mettere tutti i punti insieme. Il ministero dell'integrazione non serve a niente. Ma come? Infatti l'hanno soppresso. In Francia c'era, infatti Renzi l'ha soppresso. Il tema dell'integrazione è un tema importantissimo. Sì, però il ministero non c'entra. Renzi, che non è certamente uno di destra, l'ha tolto via. Ma perché Renzi non vuol dividere? No, ma lì è un'altra logica. È sbagliato. Che dica che ha sbagliato. Lui sta cercando di... Cioè, lui ha fatto una politica anche quella di... dei tagli, di risparmio. Però secondo lei ha sbagliato a togliere il ministero dell'integrazione? Insomma, sì. Non è l'unico ministero che è andato via, cioè non abbiamo un ministero per le pari opportunità, non abbiamo quello per le politiche giovanili, non abbiamo... Cioè, lei non dirà mai una parola contro Renzi, ho capito, mai, perché io faccio parte di un partito, è la democrazia, lei è democristianissima, no, io appartengo a un partito, il mio partito, il Partito Democratico, e quello è il suo capo, non si può parlare male. Come dicevano nel vecchio Partito Comunista, i panni sporchi si lavano in casa, quindi gli farà la pelle, ma nelle sezioni di partito, ma porte che chiuse, bella, cioè è il mio partito. No, comunque parlando sul serio, io sono qui e so che la mia presenza qui è una presenza che qui può fare la differenza, cioè nel senso, poi lei sa le lingue almeno o no? Sì. Perché molti colleghi, vuoi parlare francese? Oui, je parle français, mais avec mes collègues, je parle français. Français, c'est... Do you speak English? Yes, we can speak English. Beh, siamo superiori rispetto a qualsiasi altro. E diciamo parte. Qualcosa anche nella sua lingua madre. Facciamo una, questa parte di trasmissione. Noi facciamo le domande in italiano e lei ci risponde nella sua lingua madre. No. Sì, e chiamiamo in diretta Radio Padania. Adesso facciamo questo, guardi, ministro. Ora io voglio chiamare, chiedo alla regia di Milano di chiamare in diretta Radio Padania. Ma non sono in onda adesso in diretta. Ah, perché non c'è chiusa. Guarda, magari sì, cioè, poi possiamo fare anche questo esperimento. Però volevo solo spiegare una cosa. Non ascolta mai lei Radio Padania, vero? Ma non è la mia, sì, insomma, non è la mia radio. No, di riferimento. Guardi, non è la mia radio, insomma. Se lei ascoltasse Radio Padania morirebbe di crepacuore, credo. Sì. Oh, così, morirebbe di crepacuore. Oddio, che dicono. Anche se devo dire la verità che lei, per quello che le hanno detto, per quello che hanno scritto, anche per quello che abbiamo detto noi ogni tanto, per quello che si dice qui alla Zanzara, io non ho fatto delle critiche politiche, mai parlato di cose che riguardano la pelle, figuriamoci. Lei si fa scivolare molte cose addosso, sì, anche, sì, è vero. Sì, cioè sembra imperturbabile. C'è una cosa. Ma una cosa che l'ha ferita, però, adesso seriamente. Sarà una sembra, cosa. Lei sembra che... sempre imperturbabile di fronte a questa scorza pazzesca. È un pregio da tutto. Sì, però, secondo me, perché i problemi sono altri. Cioè, i problemi non sono. I problemi sono veramente da un altro punto, non è il colore della pelle, non è il gli insulti che fanno, non hanno, cioè che mi hanno fatto, le provocazioni. La cosa della banana terribile. Io sono ebreo, ma ogni tanto mi dicono delle cose terribili, mi viene veramente il ma come fare? Quella della banana, si vede che non hanno mai sofferto di fame, magari non sarebbero mai andati a buttare la banana. Senta, ha saputo che in realtà la cosa di Calderoli va avanti, La cosa ho saputo oggi. Sì, che c'è la testimonianza il 30 di settembre. Lei deve andare a testimoniare, Con molte probabilità, sì. Diffamazione che... aggravata da odio razziale. Ma è giusto che venga condannato, secondo lei? Secondo me è giusto che si cominciano a dare dei segnali. Perché... E dunque è giusto che venga condannato per questa frase qua dell'Orango? Beh, se l'ha detto, lui risiede all'interno di un'istituzione. Poi la denuncia non l'ho fatta io, ma certo. Sono sicura che i segnali bisogna cominciare a darli. Io però sono di quella battaglia che dice una persona che risiede all'interno dell'istituzione deve rispettare il proprio ruolo. Deve anche capire che il suo ruolo non rappresenta se stessa, ma è un ruolo educativo e come tale deve essere rispettata. Ma cioè lei farebbe fare un po' di carcere per questa roba qua, no? Ma, che tipo di servizi sociali? Cioè, io non so la legge cosa prevede. Io dico semplicemente una cosa. Ho capito, ma che tipo di sanzione si può immaginare? Se esiste una legge, si applica la legge. Vuol dire che quella gente è stata studiata. Però sarebbe d'accordo se una pena alternativa, no? Mettiamo Calderoli condannato per questo reato che avrebbe diffamazione aggravata da odio razziale. Dove lo mandiamo? Ad assistere, ad esempio, agli sbarchi dei clandestini. Questa potrebbe essere una bella pena. Questa sì, mi piacerebbe. In un CIE. Lì ad aiutare la Croce Rossa Internazionale e a dar da mangiare ai migranti. Sì, questa potrebbe essere una pena rieducativa, anche no? Forse, sarebbe rieducativa, però prima di tutto io non è che condivido tanto il come sono impostati i CIE, ecco perché non andrebbero aboliti, infatti. No, ma che aboliti, quando mai? Andrebbero riformati, strutturati. Sì, vabbè, migliore accoglienza, non c'è comunque dubbio. Comunque bisogna metterlo e poi fare in modo che insomma che faccia sul serio, cioè nel senso che lavori. Lavorare, sì. Lavorare e aiutare gli immigrati che arrivano, cioè, pulirli anche un po', che dici? Questa non l'ho detto, No, questa non l'ho detto, questo lo dico io. Pulirli. È una proposta. C'è sempre questa. Il solito carico da 90 del signor Cruciani che vedi sul tavolo, uno gli dà 10 e lui dice, no, voglio 30, cioè, come 30? Non l'ha detto pulirli. Però scusi, servirà mensa. In lavanderia. Beh, qua, pulire i gabinetti del CIE, ad esempio. No, questo non l'ho detto. Perché anch'io mi faccio trasportare, mi lascio trasportare. È simpatico il ministro, però non è ministro, devi smetterla, per me è ministro. Però scusi, onorevoli colleghi, non so che patente abbia, comunque non sarebbe male nemmeno il trasporto, insomma. Il trasporto, cioè trasportare i migranti. Bellissimo. Da un centro all'altro, bellissimo, lì alla guida del furgone. Però scusi un attimo, adesso va bene, lì ci vuole però una patente speciale, quindi... perché non si sa bene se ce la può avere. Come era nel Sudafrica, in Sudafrica c'erano quelli che trasportavano nei centri, da un centro all'altro, era un po' diverso. Però scusi, però un po' a rischio, perché bisogna mettere comunque un vetro dove è tanto avvicinarsi al guidatore. Sta piangendo. Non toccate, non disturbate. Non disturbate il conducente. Sì. Ce lo dice in congolese. Ci dica una... piange da ridere. Sì, sta fotografare. Sta piangendo da ridere. Perché mi immagino uno che guida un pullman. Calderoli che guida il pullman. Pieno di neri dentro. Le lacrime del ministro Chienga, la zanzara, lacrime di gioia. Lacrime di libertà. Servi. Dov'è la musica di Radio Padania? Voglio la musica di Radio Padania. Anche Cruciani è sta. Le lacrime, voglio fare. Come? Siamo in diretta. Oh, no, ragazzi, non c'era, signor Calderoli. Con un cappellino in testa, magari, no, signor Calderoli, col cappello in testa. Così ho scritto migranti, autobus migranti sul cappello, così che guida. Servi di Roma fuori? Dov'è la musica? Musica! Musica da Milano! Sì, musica! Che stiamo lì dentro? Dov'è? Fuori! Oh, canti con noi, ministro! Senza dubbi né ripensamenti! Padania bella e libera. Questa guarda no. Avanti, canti con noi, servi di Roma fuori. Questa no, piuttosto canto Bella Ciao. Cantiamo Bella Ciao. Ah, vediamo Bella Ciao. Bellissima, bella, bella giusta. Se la conosce Bella Ciao. Ricordiamo agli ascoltatori che è una trasmissione politica questa, in diretta da Strasburgo. È che faccio solo di sinistra. È che conosce Bella Ciao. Ma certo. Ma no. Ma ci canti una canzone congolese. Oggi mi hanno detto che lei faceva dei balli. Dei balli congolesi, mi hanno riferito tutto. Ma sappiamo dei balli. Le hanno fatto fare una danza di buon auspicio, si chiama quella. Ah beh, sì, è stata un'accoglienza da parte delle mie sorelle oggi. Quante sorelle? Che c'erano le sorelle? Quelle che sono venute oggi pomeriggio. C'era mia cognata, i miei amici, perché, dall'Italia. Sai, i ponti è difficile poi... fare con le sorelle e i cognati. Ma e poi siamo 100 persone. E quasi. Poi ricordo che siamo 38 in tutto. Appunto, quindi non è che 38 sono... fratelli e sorelle. Ma lei come fa? Li conosce tutti uno per uno questi 38? No, non li conosco. Ci abbiamo la pagina segreta su Facebook. Alcuni non li conosce proprio, alcuni mai visti. Ma cosa stupenda, lei cammina per strada e dice sorella. No, no. Ma che cazzo sei, scusa. È un po' così. Li ho già visti succedere. Quasi tutti, però non quasi è che... Quanti sì. Ne mancano? No. Quanti ne mancano da conoscere? Oddio, non ho mai fatto il conto. Ma che ne, una decina ne mancano, sì. Non con 10 manco li conosco. Però è un modello straordinario, no. Non ci sono tensioni in questa famiglia allargata. Non ci possono essere. Non può, in 38 non ci possono essere. Pensa alle tensioni che abbiamo noi, cioè loro, no, in due, in tre. Invece... Però scusi, quanti non li conoscete? Perché in due poi guardate, dici ci dobbiamo dividere la casa. 38 dice, sentite, la casa la diamo a qualcun altro e ma chiudiamo. Non la piglia nessuna. E la pagina. Straordinaria. È meglio così, cioè, sì. Che almeno sull'eredità no problem. Nulla. No problem. Niente. Senti, lo sai che mi sta così simpatica, la rivorrei ministro? Ci ho ripensato. Te l'ho detto. Ci ho ripensato. Ma io la conosco tanti anni. Ma detto. Perché non è, perché non è rimasta a fare ministro? Ma doveva? Invece di venire in questo esilio maledetto, sì, dai, in questo Parlamento, che è una fonte di spreco pazzesca. Una fonte. No, invece si sta bene qui. È passato un giorno, come fa? Si sta bene. Io vorrei tornare a questa cosa. Quant'è che non dico? Quanti fratelli non conosce di questi 38? Oddio, li conosco quasi tutto. Saranno uno o due, magari. Ma che non ha mai visto proprio? Mai visto, no? Sì, saranno uno o due, ma. Cioè, proprio... sempre il diciamo, il padre è sempre uno, no? Sempre lo stesso. Certo. Ma come si fa a fare? Io provo a chiedere una cosa. Come si fa a fare 38? Cioè, non c'è nemmeno interesse a non dire la verità. No. Cioè, certo. Come si se fa? Ne hai 30, 31, non è che cambi tanto. A quel punto che come si frega? Fa a fare 38 figli? Stupendo. Perché? Con quattro mogli? Ma 38? Ah, con quattro? Ho capito. Ma 38 è una cosa pazzesca, io non ci posso... Ma è bellissimo. Ma no, ma non è... Cioè, no, cioè, devo dire una cosa. Lei è contro la poligamia. Io non l'ho mai condivisa e non lo condivido neanche. Beh, ma fin da quando ero giù, adesso, cioè non... già quando era giù? No. Ci sono le prove? Certo. Che lei non condivide? Certo, ho scritto anche un libro, un capitolo di... No. Che lei non condividesse quando era giù, non si sa. Sì. E questo... Sì. Lo dice lei, vabbè. Sì, lo dice sì. Lei. No, è così. Perché dovrebbe dire il contrario? No, perché quando uno vive là può pensare che la poligamia sia una cosa normale, sia una cosa accettabile. No, cioè nel senso che la poligamia giù è una prassi perché, insomma, la legge lo permette. Però non l'ho mai condivisa. Cioè, non... cioè, se lei fosse rimasta là, sarebbe stata una delle mogli di qualcuno, probabile. No, assolutamente, perché non l'ho mai condivisa. No, se lei fosse rimasta lì, se lei fosse... Non l'ho mai condivisa, proprio... Non l'avrebbe praticato se fosse rimasta lì. Vabbè. No, perché l'ho sempre condannato. Come si dice nella sua lingua Lega Nord? No, non si dice proprio. No, infatti volevo ritornare a questo parliamo punto. Un po' in congolese. Cioè, la questione è questa. Io non sono nata imparando una lingua, per cui è difficile dire... ho una lingua. Io sono nata parlando 3-4 lingue insieme. Bellissimo. Per cui non ho una lingua. Cioè quali lingue? Cioè diversi il francese, lo swahili, l'ingala, per cui sì, e poi una lingua. In ingala come si dice la parola migranti in swahili, ad esempio? Non esiste. Però lei ma perché devo far dire delle cose? Ma sono cose in che non esistono. Ma sono che cose parole complesse in swahili. Sì, cioè nel senso, diciamo qualcosa in sua lì, giusto per far no, sentire diciamo la musicalità, ecco, ecco, con quale ballo posso dire cosa? Jumbo a Barigani. E che vuol dire? Buongiorno, come stai? Ah, Jumbo. Buongiorno, come... Sì. Jumbo. Jumbo. Jumbo. Ma parliamo un po' in suoi, bellissime invece per farli sentire. Vivi in questo mondo in cui c'è l'italiano, il padano, il dialetto. Ma e invece le c'è lingue... Miriam Makeba, per esempio, con la sua famosa canzone lì, che sì, è tutta in swahili. E come fa? Quella di Malaika. Ce la ce l'accenni un attimo? Com'è? Oh no, se no sembra che c'ho mal di pancia. No. Ma no, ma noi accettiamo tutto. Prego, ce l'accenni un attimo, che è bellissimo. Come fa? Ce l'accenni. Malaika, mina kupenda malaika, na mimi tange, mikona wendio, na sinto na malisi na we. Basta, poi non vado oltre. Applausi. Senta. Applausi. Gli amici della Lega ti applaudono. Senta, io però vorrei capire una cosa da lei. Io sto criticando questa operazione Mare Nostrum in maniera molto forte. Sì, poi anch'io molto forte. Lei forse quando ascolta in macchina se ne accorge, perché secondo me serve a far arrivare più gente in Italia, a far arrivare più persone in Italia. Per carità, il soccorso umanitario, quello che vogliamo, però non è possibile che uno arriva, prende il barcone, viene qui, noi li prendiamo e lo portiamo in Italia. Non è esattamente qualcosa così, che eh? C'è qualcosa, sì, in difficoltà, certo, in difficoltà uno arriva, operazione Mare Nostrum, e arrivano migranti in Italia. Non è un caso che continuano ad arrivare barconi, eh? Non è un caso, no? No, adesso io invece la mia posizione è tutt'altro, insomma, non è così. Cioè, la mia posizione, Mare Nostrum è stata, secondo me, un'operazione di dignità, ma proprio di qualcosa che ha rotto culturalmente comunque quello che stava succedendo. Cioè è giusto prendere gli immigrati quando sono in difficoltà e portarli in Italia. Perché noi li riportiamo lì? No, riportiamoli lì? No, c'è una differenza. Cioè, per me salvare le persone è il nostro dovere. Cioè, noi abbiamo il dovere di salvare le persone in difficoltà. In Australia prendono le persone e le riportano indietro. Bisogna però distinguere da politiche di integrazione, che è una scelta politica. Lo so, in Australia hanno deciso di non far entrare nessuno illegalmente, ci riescono, perché non lo dobbiamo fare nemmeno noi? Sì, no, ma lì non lo possiamo fare anche noi. Bisogna impostare ma perché dobbiamo seguire sempre gli altri? Ma perché l'Australia non è un paese del terzo mondo, cioè non è un paese, non è un paese arretrato, è un paese civile, occidentale. Sì, l'Europa però, secondo me, dopo 70 anni di pace e di democrazia, può far vedere questo. Cioè, vuol dire la maggior parte, sono nazisti in Australia, cioè, no, la maggior parte delle persone che arrivano da paesi in guerra, da paesi in conflitto, che vengono a chiedere. Ma quello è un altro discorso. Appunto, è proprio questa, che bisogna reimpostare il tutto, perché lì, per esempio, l'Europa può portare un valore aggiunto, ecco, però, quella della democrazia e della pace. Ad esempio, oggi il mio amico Gad Lerner su Repubblica dice, secondo me, una cosa molto condivisibile. Dice che ci vorrebbe un servizio civile di traghetti e voli charter per smistare razionalmente i migranti in varie destinazioni europee. Cioè, dice, Mare Nostrum è soltanto un palliativo, così bisognerebbe andare oltre, evitando che la gente muoia in mare, o quei 30 morti delle stive. I corridoi umanitari. È d'accordo lei, no? Io ormai sono mesi che dico, io sono per i corridoi umanitari. Cioè, per un motivo, cioè, servizi di navetta, andarle proprio a prendere addirittura. Chiunque vuole venire può venire, non ho capito. Andarle a prendere. Esistono in quei paesi dove ci sono i conflitti, perché bisogna cioè noi qui stiamo facendo però si infila di tutto là, poi si infila di tutto. Facciamo finire stiamo ministro, facendo immigrazione legale, immigrazione irregolare, insomma, li stiamo mettendo tutti insieme. In realtà andiamoli a prendere direttamente, certo. In realtà questo è un altro problema, non è quello di andare nei paesi dove le persone vogliono andare via perché hanno fame o perché magari qualcuno ha scelto di cambiare vita. È chiaro che lì poi bisogna rafforzare la cooperazione internazionale, cambiare il sistema dei visti. Però lei è d'accordo in linea di principio a questo? C'è un servizio di traghetti e voli charter, d'accordo quello che dice Secondo Gallemmer. Me devono istituire lì anche dei punti dove comunque le persone possono comunque chiedere anche il... Senta, ci vogliono più... Io la dico così, la domanda proprio papale. Ci vogliono più neri in Italia? Ci vogliono più persone persone di colore? Mi dica la verità. Cioè, ce n'è bisogno di più persone di colore in Italia? Un po' per far sì che l'Italia sia veramente un paese multiraziale? Ma no, questa è una domanda, secondo me, sì, cioè nel senso, perché lei risponde sì, perché lei lo pensa che ci vogliono più persone di colore, perché lei pensa, giustamente, secondo il suo punto di vista, non secondo il mio, che l'Italia deve essere un paese multiraziale, molto di più di quanto lo è già. No, perché questa c'è, cioè, una domanda, cioè fa una domanda, una domanda. Si dà anche la risposta. No, la risposta non me la sto dando, io cerco di interpretare, perché lei non me la vuole dare. Ma no, non è che non la voglio dare, perché per me è sbagliata già come è impostata la domanda. Perché? Non è che ci vogliono più persone di colore neri in Italia. Io prendo le statistiche, guardo E dico, cioè non è che per fare un'Italia multiculturale ho bisogno di portare tante persone. È già così. Ma prima di tutto, appunto, è che un Lorenzo, siamo sulla stessa linea. Ma è già questo che siete, cioè, sulla stessa linea è sicuro. Sì. Ritorniamo dopo, diciamo, la pubblicità. Cose ragionevoli, diciamo. Pubblicità, voi volete un'Italia pazzesca, a me non mi piace sta cosa. Avete finito. La zanzara. Zanzara. La trasmissione è sempre la migliore. Perché è rimasta sola con me, perché come al solito Parenzo mi lascia, mi abbandona, rientra, ti prego, in questo studio, David. Qui non è, come dire, un albergo, questa casa non è un albergo, per ricordare una trasmissione di Radio 24 che non so ancora se sia in onda oppure... Sono tornato a salvare il ministro. Eccola qui, l'hai lasciato nelle mie grinfie. Sì, infatti ero già un po' preoccupata. Era agitatissima. Vogliamo mettere una parola definitiva sulla sua vicenda personale, poi non ne parliamo mai più. Le giuro, qua non ne parliamo mai più. Vabbè. Allora, perché io lo chiedo semplicemente perché ce l'ho di fronte. Allora, voi, lei e suo marito, siccome poi avete reso pubblico, lui in particolare ha reso pubblica questa cosa, questo vostro dissidio, vi siete riconciliati, è tutto rientrato. È lunga. O no? Ma sì, siamo... Siete ancora marito e moglie, non avete intenzione di separarvi, diciamo la verità. Siamo marito e moglie. Siete, vabbè, ma adesso voglio dire, siete marito e moglie, quello ci vuole tempo. Al divorzio breve che vogliono fare, sì. Ma secondo me sì, perché certo. Se due persone non vanno d'accordo, cioè, voi andate d'accordo? Dio. Se due persone hanno condiviso un percorso, hanno avuto dei figli, sì, uno sforzo lo devono fare, se proprio non va è un'altra cosa. Per cui siete ancora in sospensione? Però... Siete ancora in sospensione. No, va bene. Non è venuto però. Comunque ha degli orecchini con la bandiera dell'Italia. Lorenzo, fai questa cosa, sì, è bellissima, degli orecchini con la bandiera dell'Italia, sì, faccio stupendo, foto, con i colori dell'Italia, meraviglioso. Balotelli, lei ha detto che è stato attaccato per motivi razziali, ma non è vero, non è stato attaccato per motivi come razziali. No, in campo spesso per sì il colore successo della pelle, su, sì, dai. Sì. Ma no, cioè il punto è questo, è che... Vi siete sentiti per telefono? L'ha chiamato per caso? No, non l'ho chiamato, però credo che criticare una persona sia lecito, nel senso se una persona non gioca bene, insomma, bisogna criticare. Certo. Quello che io condanno è il fatto che bisogna sempre associare quelle critiche al fatto... che non è italiano, è nero, deve tornare qualche deficiente su internet, è pieno dappertutto, è pieno, cioè perché bisogna sempre ricondurlo lì? Sono minoranze, cioè, però ma lui ha detto che i fratelli negri non mi avrebbero scaricato, ma è d'accordo con lui quando dice che c'è più umanità in certi... Oddio, quelle sono le parole sue, per cui se le ha scritte... Lei è d'accordo sul fatto che i fratelli negri non si abbandonano? Ma io intanto non che c'è mai, più umanità. Io intanto non ho mai risposto, perché credo che ad alcune cose il mio atteggiamento è un altro. Però bisogna comunque riconoscere che lui è stato attaccato. Non abbiamo tutti la stessa sensibilità. No, certo, però lui ha anche espresso un'idea, cioè che nel continente, cioè tra i fratelli negri, così lui li ha chiamati, negri come dite voi, ha scritto... c'è più umanità, cioè non ci si molla così, non lo avrebbero scaricato. Su questo lei è d'accordo oppure no? Ma questa dipende dall'esperienza di una persona, si vede non che, si può generalizzare. No, io sono sempre contraria a generalizzare le cose, però ciò non toglie che lui comunque è stato offeso, insomma, poi ognuno di noi reagisce a modo suo. Però io, come ho sempre detto, l'Italia non è razzista, perché proprio non bisogna generalizzare. Lei è uno scafista, cosa farebbe? Che pena ci vorrebbe per uno scafista che porta gli immigrati in Italia? Oddio, lo scafista merita anche la prigione, cioè no, quello non c'è dubbio che meriti la prigione. Per tanto tempo, insomma. Merita l'ergastolo addirittura uno scafista, uno che porta, che fa rischiare la vita a un sacco di gente, uno che trasporta merce umana, no? Considera le persone come merce. Sì, ma lo scafista lavora anche per qualcuno dietro, credo sì, che certo. Oltre allo scafista bisognerebbe attaccare prima di tutto le persone per cui lavora lo scafista, perché lo scafista è l'ultima della catena, ma andare contro e lottare per lottare contro l'immigrazione clandestina vuol dire anche sconfiggere tutta la catena che fa arrivare fino allo scafista. La microcriminalità organizzata c'è dietro. Hai voluto abolire il reato di immigrazione clandestina, ma no, no, no, no, sono, non c'entra niente, sono due cose completamente... perché sono due cose... Ma le spiego io in poche parole. Cioè, il reato di immigrazione clandestina, e le spiego anche l'ambiguità. Guarda, l'attacco, ministro, lo sbrani. No, la persona arriva sul territorio e mi dice che quella persona... Non ci puoi venire, significa che tu non ci puoi stare da clandestina. La persona scende... Allora bisogna farle bene le leggi. Ma non fermerai non mai così, nessuno. Non fermerai nessuno. Una persona che scende dal territorio, che non ha un lavoro e gli chiede di pagare 5.000 euro, lo mette in prigione, si sa che una persona che scende da un barcone non ha un conto corrente, non ha i soldi, quindi gli sto dicendo vai a lavorare illegalmente così mi paghi anche la multa. No, poi diciamo lo scafista magari lo può anche pagare, diciamo perché, la verità, sì, molti immigrati che vengono in più, qui non ci vogliono stare qui, no, in Italia, ma poi in più il problema via, è un altro, andiamo a riempire i tribunali, lavoro e fascicoli che apriamo e chiudiamo. Senta, un'ultima cosa le voglio chiedere, no, che è questa, ma una un cosa, paese guidato da Matteo Salvini è un paese da cui lei andrebbe via? Un paese guidato, l'Italia, perché si propone come leader del centrodestra, qualcuno lo propone, come se un paese fosse guidato dal signor Salvini, lei penserebbe seriamente di lasciare l'Italia? Intanto io non penserei nemmeno a quella proposta. Perché? Perché? Perché non è la persona che... Vabbè, lei no, per però me, sì. Qualcuno sì, qualcuno ci pensa legittimamente, qualcuno può pensare che questa è una cosa impensabile, secondo no, lei. Se è una cosa per me assurda, sì, nel senso che lui può anche fare la sua proposta. Io non vado via dall'Italia, ma piuttosto sono in Italia per lottare contro quel tipo di Italia che magari lui ha in testa, cioè nel senso... Italia come una fortezza inespugnabile. Già qui partiamo in sbagliato, cioè, no. Cioè lei si sentirebbe a disagio in un'Italia guidata da un leader della Lega come Salvini? E farei la guerra dalla mattina alla sera. La guerra, sì, bello, la parola guerra. Senta, ma che fine ha fatto la proposta? Che ci lei... vorrebbero più neri in nazionale, nella nazionale di calcio, secondo lei? No, ci vogliono più persone competenti. Beh, sì, Le quote, sì, sia rosa che nere, mi pare. Cioè, io sono ormai 15 anni che sulle quote rosa, spero che sia sulle quote. No, non sono contro. Sulle quote sono. Perché la Svezia, un paese come la Svezia, è arrivata a un certo punto a togliere le quote. Perché era anche per cambiare culturalmente, insomma, certo. E poi a un certo punto si tolgono. Però aspetta, prima di chiudere, perché voglio chiedere una cosa al ministro. Veloce. Che deve chiedere a Renzi un impegno. Perché lei aveva presentato una proposta per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che sono in Italia, residenti in Italia, la cittadinanza. Sì, e lo porto Renzi, anche qua. E Renzi l'ha messa anche in sordina, l'ha messa un po' sotto. Allora, faccio un appello a Renzi. Matteo, prenditi un impegno per dare la cittadinanza italiana ai bambini immigrati residenti in Italia. Nati. Sì, lui l'impegno l'ha già preso, perché il giorno che aveva giurato in Parlamento al Senato l'aveva detto che questa legge... Cioè dare la cittadinanza... italiana ai bambini fare nati. La modifica, sì, la modifica della legge lo sulla farà? Cittadinanza, ma non è nel calendario delle priorità, però ma ci è già iniziata, l'ha comunque la discussione lì. È già iniziata ci la crede? Discussione non ci credo io, non ci credo io molto. Sono una che non molla mai, cioè nel senso continua, ma quindi su questo non lo molla Matteo. Ma gli ho scritto una lettera quando eravamo in campagna elettorale, no, ma sono sicura che lui ha dato la Boschi lì, ha detto guarda Mario, come si chiama Mario. Ma no, questa insomma sono occupati tu di questa roba. Se però, lo pettegolezzo è Bella vostre, Ciao? Io no. Cioè, dov'è no, Bella Ciao? Bella Ciao. Bella Ciao, adesso entro... me la mettono perché non... Però è un tema che porterò anche in Europa. In Europa, vabbè, sì. Certo, la cittadinanza per i bambini. Ottimo. Bello questo. Dov'è importante. Bella Ciao? Fatemi sentire Bella Ciao. Ragazzi. La mattina. Com'è che fa? Mi sono svegliata. Lascio cantare a voi, a me non mi interessa. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato caldero un bel fiore. Ah, scusate, no, non scambiamo il bel fiocco. Bella ciao, bella ciao, ciao bella ciao, ciao ciao, questa mattina portami via, Tu di mori. Non è che la sarebbe molto. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, morto per la libertà. Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Mamma mia. Grazie, Cici Keng in diretta da Strasburgo, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie ministro. Città. Grazie ministro. Città. Grazie ministro. Non è più ministro. Ministro. Non è più ministro. È una cosa di affetto. Ma sì, grazie parenti. Il ministero dell'integrazione era inutile, caro. No, ma non no, no. Tu possiamo chiudere così. No, lui è inutile, glielo dica. Non lui io sono certamente inutile. Tutti siamo inutili. Beh, nessuno è utile. Com'è la storia? Nessuno? È no, tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Perfetto. Pubblicità. La zanzara. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Ieri sera è intervenuto qui alla Zanzara un ascoltatore che non è a livello di Riccardo da Roma, per carità, però era piuttosto sveglio, direi, piuttosto sveglio, un tale Vincenzo da Monza che pensa che mostri, pensa che di avermi dato una lezione, il signor Vincenzo da Monza, pensa nella sua, nel suo soliloquio, nelle sue notti passate, oh sono intervenuto alla Zanzara, gliene ho cantate a quel Cruciani, gliele ho cantate, gliene ho dette quattro a quel Cruciani, l'avrà raccontato a tutti i suoi amici, avete sentito? La bravata, ha fatto la bravata. Vincenzo da Monza. Vincenzo da Monza, sentiamo. Vincenzo, provincia di Monza. Sì, vai, dimmi. No, volevo dirti che semplicemente che secondo me tu devi avere dei problemi seri nel tentativo di voler sembrare sempre intelligente, sempre in qualche modo contro, cadi delle volte in delle banalità mostruose, la banalità del mare, veramente. Vediamo il professore. Vabbè, te lo dico, aspetta, sentiamo il professore. Fai parlare. Ricomincia quel rumore. Sentiamo il professore. Ti riempi la bocca con la libertà di espressione, fai parlare. Sentiamo il professore. Da 10-30 persone morte. Sentiamo il professore. Cosa vanno incontro? Perché c'è internet, perché sentiamo c'è il professore. Sentiamo il professore. Un bambino di 2 anni. Sentiamo il professore. A dire appunto, proprio perché sanno a cosa vanno. Sentiamo il professore. Evidentemente a casa loro dei problemi ci sono, e come dire, ecco il professore. A chi si lancia dalla torre gemella in fiamme, ma lo sai che 30 metri di sfracelli. Ma idiota, lo capisci che dietro ci sono le fiamme, idiota? Sì. Io non dico che ti debbano accogliere tutti, la soluzione deve essere chiaramente politica, ma almeno davanti a queste cose abbi la bontà di tacere, stupido, vuole capire, ma chi cazzo ti ha messo in quel posto? Sei un idiota, in questi casi bisogna solo tacere, se non hai soluzioni politiche, stai zitto, idiota! Mi fai godere, Vincenzo, mi fai godere, richiamatelo questo imbecille, Giuseppe dalla provincia di Taranto. Pronto? Sì, Vincenzo? Sì, chi è? Qui la redazione della Zanzara. Ah, dica, scusi per i toni, sono un po' infervorato. Un attimo, la rimetto in linea, non si preoccupi. Okay. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Oh, abbiamo di nuovo in linea Vincenzo da Monza. Ciao Vincenzo. Allora, non ho capito, professore, mi spieghi lei allora? Professore un cazzo. Vedi, già cominci così, professore. Che cazzo vuol dire? Se pensi di essere intelligente. No, ma poi la figura dell'imbecille, perché parli con interlocutore professore, non sono professore, sono operaio, va bene? Operaio, bene. Va bene, lo stesso. Bene. Operaio barra professore, operaio. No, senza professore, vedi, ma mi ha chiamato per dire ste cazzate, non vorresti fare il figo? No, scusami. Ma ti rendi conto? Vincenzo. Ma copri. Beh, Vincenzo. Allora, se vuoi parlare con me, smetti a costare del professore. Senti, amico mio. Non è che a me mi inviti a nozze, capito? Cioè, mi inviti a nozze. Mi inviti a nozze con queste cose, con questi discorsi, con questi toni, con questi toni. Ma mi inviti a nozze, capito? Sto prendo di merda, di nuovo, mi chiami per dire stronzate? No, vorrei farti notare che al centralino, quando ti abbiamo richiamato, vorrei farti notare, hai detto no, scusate, però forse mi sono espresso in maniera un po' troppo. Infatti ero infervorato, ma se tu mi richiami e dici, cosa vuol dire? Quindi riposare. Tu non ci arrivi e spesso se sono stato a fare il figo, mi chiami professore, non sono un professore, sono una persona che ragiona. Bravo. Buonanotte. Bravo, ciao. Buonanotte. Dove dormire? Ciao. Cresci. Vai, vai, vai a dormire, vai, vai. Ricomincia quel rumore. Allora, Biagio, provincia di Cuneo. Fra poco grande sorpresa alla Zanzara, eh. Oh, fra poco grande sorpresa, ci sarà un grande Juncker? Professore. Sarà Juncker? No, no, no, non è il professor Juncker. Sir Schulz? No, non è Schulz. Non è Schulz, non è Schulz, non è Schulz. Grande amico della Zanzara, grande amico della Tremo Zanzara. Già. Tremo grande già. Amico della Zanzara. Tremo già. Sarà qui tra di noi. Tremo sarà già. Qui tra di tremo noi. Tremo già, tremo già, tremo già. Biagio, provincia di Cuneo. Biagio adagio. Ciao, Cruciale. Stasera praticamente con la Mussolini ti sei quasi dichiarato, voglio dire. Con quel popolo di donne che avevi davanti, voglio dire. In che senso mi sono dichiarato? È una bella donna, mi piacciono i suoi, mi piace. Guardate i suoi. Sul piede, ti va, ti cade l'occhio. Sì, sul mi è caduto piede, l'occhio quindi... sul piede. Sono feticista dei piedi. Allora qual è il problema? Mi piacciono i piedi delle donne. Cosa cazzo vuoi da me? Oh, ma niente che ti stai insultando, ma allora sei scemo, non posso messo, voglio dire. Dimmi caro, dimmi caro, dimmi. Non era per te, scusami. Ti sto dicendo semplicemente che ti è caduto l'occhio sul piede, perché effettivamente, voglio dire, la Mussolini è una bella donna, voglio dire, no? Vabbè, allora? E poi volevo dirti una cosa anche riguardo a Giovanni, no? Sei un attimino... hai calzato sul fatto che gli hai fatto le domande alla Mussolini, Giovanni, quando ti ha detto, sì, che non ha detto hai fatto prima, le domande, sì, alla Mussolini, forse non hai capito, ma ragazzi, effettivamente, però no, scusami un attimo, ma la dovete capire bene, ma dovete capire come funziona il mondo, non va, sì, come sì, pensate sì, voi sì, il mondo un attimino, voglio dire, lo dimmi, capisco. Dai, dimmi, ma adesso dimmi. Mi dovrebbe venire un attimino incontro su sta cosa. Tu effettivamente ti sei messo d'accordo, no? Però tu, ma non mi sono messo d'accordo, una trasmissione però come la tua che si chiama La Zanzara deve pungere, e tu sai benissimo che da giornalista, anche se gli fai qualche domandina, è lecito, voglio dire, ma tranquillo, proprio. Senti, amico mio, non c'è stato nessun accordo, ha detto non voglio parlare della vicenda di mio marito, penso che sia legittimo che una persona... Voglio dire, no, ma sono cazzi miei se la invito, se non ti va, cambi canale, non mi rompi i coglioni, traffico, ti abbraccio, ciao, traffico. Dio, che bello, mi piace pure il traffico. La Zanzara. Avevo un grande stato. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Dell'intero universo. Poi malgrado. Allora ragazzi, 800-24-0024, si combatte qui, si combatte. Fra poco vi presento un personaggio che certamente non può essere annoverato tra i moderati, no, di questo paese. Né tantomeno tra i liberali cresciuti alla scuola dei Einaudi. No, è un personaggio che non può essere considerato, come dire, un democristiano. No, un democristiano. Assolutamente. Un personaggio che non può essere messo tra quelli che amano, come dire, la... Nel pantheon del compromesso storico, nel pantheon della tradizione democratica e liberale italiana. Sì, ma non democratica cristiana italiana, no, non democratica no, cristiana italiana, no. Però fra poco ve lo presento, perché non è un personaggio nuovo della Zanzara, però insomma da davanti a sé 5 anni, perché è stato rieletto in maniera un po' rocambolesca, devo dire. La cambiale in bianco, c'è cioè un assegno in bianco praticamente. Beh, un assegno in bianco. Beh, sì, può fare quello che vuole adesso per 5 anni. Ma sì, sì, certo, sì, può fare quello che vuole, anche scorreggiare e poi, no, vabbè, che questo, c'entra, questo, però questo, che non è quello il punto, dai. Però io vorrei sentire prima il signor Marcello della... Qui c'è stato anche un incontro prima, tra il personaggio che abbiamo qui, la signora Chieng, un incontro un po' freddino, devo dire, un po' leggermente freddo. Non corre buon sangue, non corre buon... Adesso ci racconterà qualcosa. Marcello, provincia dell'Aquila. Marcello, provincia dell'Aquila. Marcello. Sì, pronto? Dimmi, avanti, caro, dimmi, tutta, dimmi. Forza. Forza. Niente, volevo dire il mio parere, insomma, su quella scenetta con il ministro Chieng. Sì. Io penso che, insomma, la pena che avete previsto per Calderoli vada bene anche per voi due. Qualche giorno in, cioè, un centro qualche di giorno accoglienza. In un centro di accoglienza, perché la signora Chieng ha detto che Calderoli, per l'avere dato dell'orango, meriterebbe di andare in un centro di accoglienza a fare dei lavori utili, dei lavori utili e umili. Lavori utili e anche umili, per esempio guidare un autobus con degli immigrati dentro, trasportare da un centro all'altro. Insomma, ridere su quelle situazioni non è una cosa. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere a piangere, amico mio. No, piangere amico. No, però insomma. Allora, ma ci faccia ridere. Un sorriso sulla pena che diceva. Ma sono le 20:21 del 30 del primo di luglio. Non sulla tragedia ci del mare. Ci faccia ridere una. Mica, mica ridevamo delle tragedie quello del mare. Quello per carità. A me lo però, dice. Vabbè, ecco, sì. Io ti ripeto una cosa che voglio dire all'ascoltatore prima. Chi parte da alcune cose, si dirige in Italia, è consapevole, non i bambini, non i minorenni, ma chi li guida e soprattutto no, gli adulti sono consapevoli di correre un pericolo di morte. Ma è evidente, ma io non dico, ma come cosa c'entra? Ma io non sto dicendo, è come se tu dici alternative. Ma non è, le alternative ci sono sempre. Uno che è disperato fa qualunque cosa, anche se tu gli metti il reato di immigrazione clandestina. Musica, maestro, musica per introdurre il personaggio. Musica, musica, musica, musica, musica. Servi di Roma fuori. Alta, alta, più forte. Cantate anche voi in macchina. Padania bella e libera. Guarda, avanti. Mario Borghezio, buonasera. Un padano a Roma. Ancora questa storia, certo. Un padano a Roma. Sì. Ha preso casa a Roma lei? Non ancora. Sono sì. Abusivo alla Camera dei Deputati. Come abusivo? È abusivo nel senso che dorme ricevo lì. No, dormo, ma ricevo. Praticamente sì. No, sono tutto il giorno, finché sì. Proprio non ti cacciano. Purtroppo. Come ex. Purtroppo ho scoperto una cosa. A che ora chiude la camera? E purtroppo il sabato, sì. Il sabato non è accessibile. Non fanno un cazzo il sabato, forse sì. La signora Bordini non lo sa, ma la camera il sabato non fa un cazzo. Niente. La domenica sì. Già si sapeva, ma adesso neanche il sabato. Una volta era aperto. Cioè, che è successo? Adesso io mi sono presentato per ricevere la gente, sì. Ho dato appuntamenti, sì. Li ho dovuti ricevere raggiolinti. Non si fa un cazzo alla camera il sabato! È una vergogna! La Bordini! Capodri, tu non fai un cazzo tutto l'anno, no, non si ma può. Almeno il personale fallo lavorare il sabato, che ci sia l'apertura. La casa della democrazia è chiusa, come le case chiuse, è cazzo! Scusi. Detto sempre con sobrietà e pacatezza. Certo, grazie. Con grande rispetto per l'istituzione. Ma come rispetto? Appena certo. Detto che... È chiusa, è chiusa, è una casa chiusa, la casa della democrazia, ma chiusa. Casa chiusa della democrazia. Ma che cazzo stiamo a fare? Il sabato, cittadini democratici, ribellatevi. Ma che costa tenere il sabato aperta? Aprire, io la farò aprire. No. Ho già cominciato con Nannarella. Nannarella che si era permessa di rompere i coglioni persino a Bossi. Che ha fatto? L'ha messa in riga subito. Immediatamente. Cioè, che ha fatto? E moderatamente ho detto, nel richiamare attenzione, diciamo, delle competenti autorità, sì. Ho detto, ricordatevi una cosa. Davanti al Senato francese sì. O alla Camera nessuno sì. Si permette, appena arriva un deputato, ah, Borghè, pezzo di merda, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Ci deve essere oggi. Diciamo che lei non è un lord. Io ho accennato garbatamente alla presenza delle competenti autorità. Ho sì. Detto da oggi c'è l'ordine Borghezio davanti alla Camera. E quale sarebbe? Nannarella non si trova più. Lei ha cacciato... L'hanno fatta sparire. Ma cos'è l'ordine? Sembrava un po' come negli anni 30 costurlo così. È solo un inizio. Ce n'è che un début. Ho appena cominciato perché non c'è ancora il radicamento nel sì. Territorio. Però andiamo bene, abbiamo cominciato. Però... qualche primo aggancio abbiamo fatto. Abbiamo visto anche delle immagini con degli esperti del settore. No, spieghi questo. L'ho vista a fianco al signor delle chiaie. È il comandante. Ma come comandante? Ma lei lo chiama signor? Ma comandante di che cosa? Chi è rispettoso? Ma lei, scusi, lei un golpe l'ha mai fatto nella sua vita? No. Allora lei è un cazzo, scusi. Uno che non ha fatto un golpe nella sua vita è un cazzo. Uno che almeno una volta. Ma è un golpista! Almeno tentà. Ma lei è arrivato vicino. Ma lo dice con persona seria. Ma che seria? Persona seria. Ma è un golpista. Non è facile. Ha tentato. Ma è un fascista. Ha tentato. È un neofascista. A me è sembrata una persona moderata, c'aveva anche la maglietta rossa. Ma come si fa a dire moderato? A me è sembrato un rivoluzionario. Delle chiaie. Un rivoluzionario di sinistra. No. È rimasto solo lui di sinistra che parla del popolo, i diritti del popolo. Ma lo chiama comandante perché delle chiaie? Perché comandante perché ha sostituito il vecchio comandante, ha preso il posto del vecchio comandante, è principe Borghese. Lo vogliamo sottovalutare il principe Borghese? No, perché quello c'è la Duco Ioni così. Brava persona, che è arrivato un millimetro dal sistemare la situazione. Anni 60, anni Ruggenti, quelli erano anni, si faceva la politica. Ma che quella era politica! Ma quale politica? Colpo di Stato, un bandito, un fascista, quale politica? Oggi siamo tutti più tranquilli. certo, sì. Certo, sembra... un fronte nazionale ci vorrebbe anche adesso, eh. Sì, no. Un fronte nazionale, no, fronte nazionale. Un fronte nazionale anche da noi, come in Francia, un fronte nazionale. Ma scusi, Borghezio, però un fronte nazionale. La vediamo più pacata del solito oggi. 5 anni. Questo ce n'è che un debut. L'inizio che comincia così, moderati, tranquilli, perché non bisogna i patelli bourgeois. Non bisogna cioè, spaventare la borghesia. Certo. Ma ha detto delle cose terribili, l'elogio di Giulio Valerio Borghese. No, l'elogio. Non comandante correggo. L'ammirazione pura. No, ma sta scherzando. L'eroe di guerra, la medaglia d'oro. Ma lei ha mai sentito parlare delle grandi imprese da decima? Quali grandi imprese? Voleva un colpo di Stato. La grande impresa. Borghezio, lei vorrebbe che in realtà ci fosse, in Italia ci fosse, no, un colpo di Stato, diciamo la verità. No, io dico che in quegli anni incombeva il pericolo comunista. Sì, questo eravamo dalla parte occidentale del mondo. Sì, sì. C'era stata la divisione di Yalta. Sì. Gli altri ci schiavano, volevano entrare, a parte non dovuta, degli altri, volevano entrare qui. Partito Comunista, grandi organizzazioni, Gladio Rosse, magistratura che faceva peggio di adesso, non c'era spazio per un'azione, sì, moderata, ma anticomunista! Vabbè, d'accordo, però... E allora, che se deve fare? Uno che è moderato, ma anche anticomunista! Ma abbiamo capito, si difende, c'è il pericolo in combe, sì, se deve organizzare, se deve mobilitare. Per lei delle chiaie chi era? No, lo Stato, c'è stata un'impresa... È andato alla vicina. Lo Stato si è difeso, è arrivato molto vicino. Va dato atto che lo Stato a un certo punto avrà detto: beh, fermiamoci ragazzi, chi lo sa, sono arrivati anche quelli da Grottaferrata, chi è arrivato da Grottaferrata? È il convoglio incaricato a Forestale. Vabbè, comunque devo dire una bella trama dei film. Eccezionale. Roma, città straordinaria. Ormai lei si è radicato. Dal punto di vista cinematografico, a politica romana è sensazionale. Ma ogni giorno c'è un set. Ma all'epoca, quando lei ha fatto pochi mesi fa la campagna per le europee, qualcuno, sì, le ha mai chiesto di attaccare in nero i manifesti, le cose? No, i manifesti di Roma sono stati attaccati bene, tutti regolari, anche sul palazzo dei Renzi, che non a caso si è accorto e parlava solo di me in campagna elettorale. Forse perché ma esiste un po' una mafia per attaccare i manifesti? Hanno appiccicato i manifesti anche su Palazzo Chigi, forse si è un pochettino infervorato per sto piccolo particolare, ma non è uno sgarbo, era per dire: leggi bene cosa c'è scritto nel manifesto. Nel manifesto c'è scritto: prima gli italiani! Vabbè, d'accordo, abbiamo capito. Abbiamo un attimo di pausa, poi torniamo con uno scatenato Mario Borghezzi. No, mi sembra irenico. In pace con se stesso, soprattutto. 800 24 00 24. 5 anni. Ficcamo sta bandiera alla Lega Roma e non la lasciamo più. La Zanzara. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Ormai è tutto degradato. Non mi molesta il moschito. Luisella Costamagna contro Lussana, direttore della Padania. Sentite come va a finire sulla questione. Dov'era, Salvini, immigrati, eccetera. Non so, era in qualche televisione. A Omnibus. No, questa mattina da Milan, credo. Questa mattina da Milan, qui a Radio Metropolitana. Non ad Agorà, sulla Bortone. No, Costamagna, Lussana, sentite. Salvini non ha detto solo questo, ma ha detto che portano gli immigrati, non sono segnato, scabbia, tubercolosi ed ebola, per cui voglio dire, stiamo parlando di una persona che era quella che voleva fare disinfettare i tram se salivano immigrati. Ma chi ha disinfettato i tram? Ma in che film? Ma io capisco che è molto eccitante immaginare il leghista razzista, probabilmente uno si esalta così. Ma quando Salvini è salito a disinfettare un tram? Sei una giornalista, documentati, portami la data di quando. Vabbè, allora. Ancora. Il 6 maggio del 2014 Salvini alla Zanzara ha detto: degli immigrati darei il DASPO, portano scabbia, tubercolosi ed ebola. Quindi e il tram che va a disinfettare il tram, te la sei inventata? Vabbè, il tram, cancelliamo il tram. L'ha detto un mese e mezzo fa, la scabbia e l'ebola. Quanto a Mare Nostrum, cioè, ma stamattina ha letto i giornali. Beh, chi è andato a disinfettare una volta i vagoni di un treno, ce era lo qui. Ce lo ricordiamo. Era il signor Borghezio, è orgoglioso di quella cosa? Beh, è orgoglioso anche delle volontarie verdi, tra l'altro tutte signore di una certa età meridionale, sì, che sono venute con me sul treno Torino-Milano, veramente nella tratta Torino-Chivasso, dove abbiamo incontrato le signore o signorine nigeriane. Beh, lì fu razzismo, lì fu un episodio brutto. Che erano brutto, abituate a fare pulizia personale sul treno, per quell'episodio, eccetera. Io penso che sia stato una bella occasione di gettare un fascio di luce, un bel fascio di luce su un problema grave, che è quello che conoscono tutti quelli. Ragazzi, chi ha il telefono acceso? Qualcuno? Tutti quelli che passano sui treni e che per motivi di lavoro, impiegati, operai, studenti, migranti, pendolari, che vanno a lavorare nei cantieri e che devono sopportare alla compagnia di certe persone che dal lavorano, punto di vista igienico-sanitario spesso e lavorano sul marciapiede. Parliamo delle, in quel caso, delle prostitute nigeriane, c'erano le lamentele, poi nessuno faceva ovviamente un cazzo di niente. Però scusi, come Borghezio, spesso succede in questo bel paese, eccetera, e noi siamo intervenuti con un'azione dimostrativa. Non abbiamo toccato nessuna di queste persone. Veramente. Ma gli avete spruzzato addosso per disinfettare? Loro hanno cercato pure delle grafiamme, eccetera. Devo dire donne aggressive, donne mascole. Ma ti credo, ma se lei gli spruzza, diciamo la verità, donne dal combattimento, donne da combattimento, non solo erotico, non solo orizzontale, donne che si difendono, unghie lunghissime, sguardo spirituato, diciamo voodoo in azione. Io devo dire, per qualche mese, tutte le volte che sentivo qualche dolorino strano, pensavo qui ma hanno invocato qualche troppo bene le è andata, qualche ma è andata ancora bene, ma troppo bene le è andata ancora bene, diciamo che comunque l'aria del voodoo si sentiva, perché lì c'è mica comunque mica lo rifarebbe attenti. Chi è qua lo rifarebbe, ma non c'è la situazione. Però sapete, adesso 5 anni ci abbiamo tempo, 5 anni sono lunghi. Quale sarà la sua prossima azione? Sono lunghi, me devono cuccare per 5 domani anni. C'è Renzi, tra l'altro, domani c'è Renzi. Che fa? Gli dà il suo saluto? Gli diamo un saluto. Ci sarà anche il segretario Salvini, prima lui, naturalmente. Ma lei vorrebbe parlare? Ma noi ci siamo, abbiamo diritto di parola. Un minutino e mezzo, un breve moderato, saluto. Moderato. Un breve saluto, ma noi in aula siamo sempre rispettosi. Beh, insomma. E anche educati, non come quei maleducati di Fares che hanno voltato la schiena a quelli che suonavano, che sono professori d'orchestra, una cosa, diciamo, ah, così. Sì. Ah, perché oggi spieghiamo a chi ci ascolta, esatto. C'è stato. Dio stramaledica questi inglesi di Farage, questi, non tutti gli inglesi, Dio stramaledica questi inglesi di Farage. Ma come Dio sono? Stramaledica, ma come si sono? Diceva, come si diceva ancora lei. Quando c'era la guerra, c'era la gente. Parlava con coscienza, sì, di causa, c'erano proprio le bombe che cadevano, ma è uno schifo, si sentiva, ma è uno eccetera, eccetera. Proprio. Questo fare una bella bombettina sulla zucca, che peraltro è vuota, ci starebbe bene. E invece gli inglesi ci hanno liberato, altro che, perché gli inglesi sono, sì, stati quelli che e hanno. E ci liberano anche di sto cazzo di Farage, che così famo un'operazione completa. Ma perché eccetera. Il popolo non lo può vedere sto fare? Ma beve, insomma, no, perché qualcuno dice che beve. No, il fatto che sia un ubriacone non è grave, perché nella politica c'è di tutto. Non è grave. Il fatto grave è che quello dice: noi siamo contro l'Europa, sì, ma non spiega. Siamo contro l'Europa. Noi siamo contro l'Europa perché siamo contro l'alta finanza e le banche. Lui è contro le banche della Germania, contro il Francoforte, la piazza finanziaria di Francoforte, a nome e per conto degli interessi, sì, inglesi. Però a voi vi rode, sospetti, a voi leghisti vi rode, sospetti, perché loro il gruppo sono riusciti a farlo. Hanno reclutato il Circo Barnum. Hanno reclutato il Circo Barnum. Cioè, i grillini sono perché, il Circo Barnum. No, il Circo Barnum è quando c'è uno che suona la gran cassa che non sa suonare neanche il violino. L'altro che, insomma, sembra una cosa che il circo è più serio. Ma scusi, perché hanno messo insieme, perché non avete reclutato anche voi gli estremisti ungheresi? Hanno messo insieme di tutto e di più. Non c'è. Perché e non poi avete preso i camerati ungheresi voi? Tempo al tempo. Ma come tempo al tempo? Tempo al tempo. Le situazioni mutano, la gente, diciamo, si converte a forme di democrazia più cauta, eccetera. Gli ungheresi nascono leggermente estremisti. Leggermente. No, forse sapete, sono anche cose che alle volte per esigenze locali. C'è un forte antisemitismo diffuso in quel paese, purtroppo. Eccetera, eccetera. Sapete chi fa propaganda popolare, alle volte, come uno dove si fa campagna a Napoli, metto a cantare le canzoni napoletane, eppure mi piacciono un cazzo. Cioè, capite? Com'era l'imbianchino? La captazio benevolente. Com'era l'imbianchino nella Germania? Però, il figlio dell'imbianchino. Però poi bisogna cauterizzare queste forme estreme e ricondurci, per esempio, non so, abbiamo anche Orban in gran Ungheria. Personaggio, un altro personaggio che va bene, il PPE moderato. Un vero democratico. Ma questo Farage è proprio un cretino, secondo lei? Questo Farage è un gran figlio di buona donna, di perché puttana, lui predica bene e poi razzola che i risparmi, come gli ha buttato sulla faccia in aula il capogruppo dei liberali. Deve essere provato. Ha essere provato. Lui non ha nelle dichiarazioni della scorsa legislatura sugli interessi finanziari, non ha dichiarato di aver occultato i risparmi di famiglia nei paradisi fiscali delle isole della Manica. O comunque dei paradisi inglesi, sono quelli che predicano bene e razzano male. Ce n'è anche in Italia, ce n'è anche in Italia. Con questi, che predicano bene, lei cosa farebbe con questi barconi? Mi dica la verità, soluzione definitiva. Però ci sono 30 basta morti, fare. Ma di fronte ai quali ci togliamo il cappello e semmai recitiamo anche una preghierina, e come io ho fatto. La soluzione definitiva. A Lampedusa. Io ho pregato, io sono andato a pulire le tombe che era tutto zozzo. Una cosa definitiva. Dove c'erano questi i poveri corpi. Una cosa definitiva, bisogna intervenire al lato della partenza. Quando questi signori che guidano, quelli che sui giornali voi chiamate scafisti, che come se fosse un ordine professionale, cioè, basta intervenire democraticamente nei paesi di partenza e sparargli in testa. Operazione che tu, qualunque servizio segreto del cazzo riesce a fare. L'avranno fatto gli spagnoli, i greci. Io invece sono molto d'accordo con quanto ha scritto Gad Lerner oggi sulla Repubblica. Gad Lerner ha scritto oggi lo famo in Salamoia, una cosa molto giusta a mio parere, un brutto gattaccio. Ha scritto, ma è evidente, però è simpatico. Gad Lerner ha scritto una cosa molto giusta oggi. Ha scritto, ma è evidente che Mare Nostrum è solo un palliativo, laddove andrebbe creato subito un corridoio umanitario, ovvero un servizio civile di traghetti e voli charter per smistare razionalmente i migranti in varie destinazioni europee. Non si capisce un cazzo. No, questo ha detto. Ha ragione. Idee ben confuse. Il GAD evidentemente. Un servizio civile di traghetti, evitando che questi partano. Ci diamo anche. Non ho capito. Risolviamo grandi problemi. Ma lo sapete cosa dicono i sette camini? Nella periferia di Roma risolviamo tanti. Non ci rompano i coglioni continuando a dare soldi agli immigrati. Ci hanno rotto il cazzo. Questo dice il popolo di Roma che vota Borghezio. Siamo tutti con voi! Siamo tutti con voi! Ci avete rotto i coglioni con i soldi. Manco un euro agli immigrati, dice lei. A lunedì all'Esquilino famo un grande corteo. Partono. Famo il corteo contro l'immigrazione! Roma! Bruxelles ladrona! Roma non perdona! Forza Roma! La Roma che combatte, Lazio anche. Anche. Si ricorda cosa fece? Non offendiamo nessuno. Il signor Di Canio, lei si ricorda che gesto fece il signor Di Canio? Salutava gli amici. No, non salutava gli amici. Faceva il gesto, il saluto romano. Lei dice? Sì. Ma secondo lei il saluto romano si può fare, sì. Siamo autorizzati a farlo. A Roma si può fare. A Torino si fa il gesto piemontese. A lei piace il saluto romano. A Roma si fa il gesto romano. Il saluto romano. Siamo Roma, fa il saluto romano. Anch'io in campagna elettorale, quando necessitato, solo quando necessitato e regolarmente richiesto, ho fatto un saluto romano. Comunque, guarda, dove lo chiedevano. I servizi segreti, le grandi tecnologie, a cosa servono? Certo. Questi qua, evidentemente c'è una convenienza. A scoprire questi trafficanti, colpirli sul posto, sparare, come dice Borghezio, oppure fare un'operazione. Dovrebbe essere la collaborazione dei coglioni, paesi. Sempre bene. Tagliare i coglioni agli scafisti. Sì. No, che immagine. Tagliare i coglioni. Ma è un'immagine figurata per dire che bisogna prenderli seriamente. Mario Borghezio, grazie. A presto. Grazie. Viva Roma eterna, Roma bellissima. Partirà di lì. Come ha profetizzato il grande professor Miglio, la tenaglia che distruggerà questa burocrazia, questi ladri, tutta questa oppressione verso chi lavora e produce. Quindi mi raccomando, forza e coraggio. Vado dal Papa domenica. Partiamo anche. Mi farebbe bene ascoltare un po' Papa Francesco domenica, visto che a Roma piace questo Papa. Faccio un giretto del Papa. È più peronista di me. Io sono peronista. Il Papa è più peronista di me. Ma nella Lega non ci sono gay? Vabbè, ci sono dappertutto, quindi la nostra percentuale di legge ce l'abbiamo pure noi. Ma non ce ne vengono mai alla luce. Non eh beh, si vede che saranno inquattati. Ma saranno inquattati anche là. Ma facciamo anche là, lei è favorevole al matrimonio gay? Dici. No, non siamo favorevoli al matrimonio gay, noi siamo favorevoli ai diritti. Matrimonio, Salvini. Uno solo, io sapete sono uomo, un cattolico tradizionalista. E la tradizione della cattolica dice il matrimonio fra uomo e donna. Lei è freviano, lei è freviano. Non rompereci i coglioni col matrimonio, dice. Io sono Lefreviano, sono un ammiratore di Monsignor Lefebvre, ecco. Però anche sto Williamson non è malato. Ma è terribile. Ma questo Williamson. Ma come chi è? Questo Williamson. C'ha tanto seguito. C'ha seguito. Ma è un personaggio terribile. Parliamo un'altra volta. È un po' fuori, fuori, un po' fuori ordinanza. Qualche affermazione, un po'. Però è un duro. Ma delle cose terribili sull'immigrazione, delle cose terribili sulla tradizione, addirittura. No, vabbè, diciamo, è un pure duro. Anche loro c'hanno sarebbe stato duri. Perfetto come cappellano degli anni 30, proprio al servizio della Wehrmacht, probabilmente. No, ma guardi. Le faccio una precisazione storica. Anche le SS avevano il loro bravo cappellano. Appunto, è questo che ho detto. Mettiamo i puntini. Lei ammira molto le SS. No, io ammiro molto il cappellano. Ma anche le SS. Il cappellano Monsignor Maior de Lupé, un grande uomo di religione. Ma che uomo di religione? Un coraggioso. A questi nazisti schifosi. No, scusi, abbia pazienza. Scusi se io preciso. È stato il cappellano della grande spedizione dei volontari francesi nella divisa in quel corpo contro l'Unione Sovietica. Quindi ha combattuto contro il comunismo per la libertà, praticamente è un super democristiano. Lei ammira l'SS un po'? No, io ammiro il cappellano. No, anche l'SS. Il cappellano, certo, ha fatto il cappellano e l'ha fatto bene. Evidentemente ha una bella tomba, c'è l'iscrizione, un grande personaggio, grande aristocrazia francese, non c'è confronto. A presto! Tradizione militare, eccetera, eccetera. A presto, Mario Borghezio. Sempre, comunque, 5 anni! Dove andiamo a sentire Luca da Pavia? Luca da Pavia. Ciao Luca. Tani. Ciao Tani, ciao Parenzo, ciao. Dimmi. Io volevo dire questa cosa. A Milano da moltissimo tempo le macchinette automatiche dei mezzanini delle metropolitane sono presidiate dalla mattina alle 7 fino alla sera dai Rom che pretendono la questua. Uno non può fare il biglietto perché ha due donne, una da una parte, una dall'altra, che ti assillano, non riesci a concentrarti a fare il biglietto per viaggiare. Ma è una adesso, cosa concentrarsi a fare il biglietto, che ci sia la presenza in qualche stazione di Rom, di Zingari, che, diciamo la verità, lo pensano tutti, lo dico esplicitamente, rompono i coglioni alla gente, su questo non c'è ma minimo dai, ma no, rompono i coglioni, perché a te non rompono i coglioni? Ma io viaggio quando sempre con la quando si avvicina un Rom, Roma, uno Zingaro, ma anche un non, anche una persona così, gli dico no, grazie, alle volte gli do 10 centesimi, alle volte 50. Regali soldi. Alle volte non do niente, mica posso sempre dare i soldi, ovviamente. Mica sono cruciani io. Però loro presidiano con grande dalla mattina alla sera, sono gruppi organizzati. Sì, ho proprio avuto modo di vedere in più posti a Milano sempre, perché non conosco altre realtà. Però avevo letto anche sul Fatto Quotidiano che per esempio a Firenze il problema è ancora più grave. Questo ho potuto leggere. Ragazzi, vi dobbiamo lasciare stasera. Luigi da Milano, ma velocemente. Domani di nuovo a Strasburgo. Velocemente, Luigi. In diretta da qua. Cosa vuoi che ti dica? Saluto solo Sua Santità Borghezio, perché volevo dire quattro paroline al capo dei Sinti che hai lì vicino, ma non posso parlare perché... Il capo dei Sinti sarei io. Il capo dei Sinti è Parenzo. Ci sentiamo domani, ti richiamiamo domani. Saluti, Rom. Abbiamo tutti i numeri. La grande Spectre della Zanzara. Vi saluta e vi dà appuntamento domani alle 18.30. Ciao. Scusi, a me capire, ma chi cazzo ti ha messo in quel posto? Sei un idiota! In questi casi bisogna solo tacere, se non hai soluzioni politiche, stai zitto, idiota! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Che orrore! Radio 24. La passione si sente.